strumento del professor Pietro Scopa, che parlerà con la consueta facondia della Lega Democrazia Nazionale e in genere tutta la storia delle dissidenze cattoliche che stanno finendo adesso. Spero di essere non facondo, ma direi più breve, almeno di alcuni degli amici che mi hanno preceduto, anche perché il mio compito è stato in qualche modo facilitato dalle relazioni precedenti sulla situazione italiana. Già ieri, nel corso del dibattito sulla relazione di Francesco Traniello, sono emersi alcuni accenni interessanti e utili circa l'ambiente storico e le circostanze nelle quali è nata la Lega Democratica Nazionale. Dopo il fallimento della operazione tentata da Leone XIII con le istruzioni del 1902, della quale ci ha parlato Camillo Brezzi in un suo intervento, operazione volta in fondo a emarginare la corrente muriana della Democrazia Cristiana, ma al tempo stesso a togliere di mezzo anche la egemonia del vecchio gruppo intransigente paganuziano e a concentrare il movimento cattolico sulle posizioni cattolico-sociali. Dopo lo scioglimento dell'opera dei congressi, si realizza in occasione, come è noto, vero, delle elezioni del 1904, un diverso tipo di mediazione, un tipo di mediazione lontano in fondo da quello che il pontefice precedente, ormai morto, Leone XIII, aveva auspicato. La mediazione non avviene più fra correnti diverse del movimento cattolico organizzato, ma direi che si realizza fra le due correnti storiche del cattolicesimo italiano nel suo insieme. Con il clerico moderatismo che ha inizio sul piano nazionale, perché abbiamo sentito che sul piano amministrativo ci sono precedenti e preannunzi già di molto anteriori, vero? Con l'avvio della politica clerico moderata abbiamo in qualche modo il ricomporsi in unità politica della tendenza conciliatorista transigente che si era manifestata e tenuta viva lungo gli ultimi decenni dell'Ottocento con la corrente intransigente del movimento cattolico organizzato. La scelta clerico-moderata, già lo abbiamo sentito ieri, ma faccio questi accenni per richiamare il quadro e rendere, spero, più facile la comprensione di quello che sto per dire dopo. La scelta clerico-moderata, come già le istruzioni del 2, provocano una vivace reazione e un profondo disagio nelle file della Democrazia Cristiana. Non che i democratici cristiani non auspicassero, non avessero da tempo auspicato un inserimento dei cattolici italiani nella vita politica del paese, solo che pensavano e auspicavano un inserimento di tipo diverso, sulla base di un loro programma, sulla base di un programma di rinnovamento sociale, e non a rimorchio, per così dire, del liberalismo, di un liberalismo che tendeva ormai a difendersi dalla minaccia crescente, dalla pressione crescente del movimento socialista. Questa crisi che si manifesta all'interno del movimento democratico cristiano ha diversi sbocchi nei diversi gruppi, nei diversi individui. Abbiamo la maggioranza, direi, dei democratici cristiani che attraverso un processo complesso finirà in fondo con l'accettare la nuova situazione. Sono stati già fatti ieri da Traniello, rispondendo, mi pare, a una domanda, i nomi di Filippo Meda, il nome di Valente, il nome di Mauri, sono uomini che in fondo si riconoscono nella posizione nuova, nella linea nuova, il nome di Bertini, Giovanni Bertini, che in un primo momento è fra i critici più duri della scelta clerico-moderata e che poi accetterà questo nuovo quadro. Abbiamo la posizione di un Luigi Sturzo, il quale si rifugia in qualche modo, ma è un rifugiarsi estremamente attivo, nella vita amministrativa, per creare attraverso l'esperienza amministrativa che si sviluppa lungo il periodo giolittiano le premesse dell'iniziativa, della proposta politica che avremo poi nel primo dopoguerra con il Partito Popolare Italiano. Abbiamo infine questo ristretto gruppo di giovani democratici cristiani che intorno a Romolo Muri danno vita alla Lega Democratica Nazionale al termine, a conclusione di un incontro che si tiene a Bologna fra il 19 e il 20 novembre del 1905. Una definizione del movimento che nasce la troviamo nel suo statuto. La Lega si propone, si legge nell'articolo 2, di raccogliere in un fascio forze giovanili e proletarie, coscienti e mature, allo scopo di agire concordemente con lo studio, l'opera personale, la propaganda, l'azione politica ed altri mezzi opportuni per l'orientamento in senso democratico dell'attività pubblica dei cattolici. L'orientamento in senso democratico dell'attività pubblica dei cattolici. Abbiamo cioè la risposta simmetrica, opposta e simmetrica alla scelta che è stata fatta sul piano nazionale dal movimento cattolico con l'avvio della politica clerico-moderata. È qualcosa meno che un partito, è piuttosto la preparazione che un partito, un movimento di opinione, un movimento che vuole preparare un'azione politica, che incontra subito l'ostilità dell'autorità ecclesiastica. Già l'incontro di Bologna era stato osteggiato dal cardinale Svampa, nonostante che Svampa fosse stato un amico della Democrazia Cristiana nella fase precedente. Poco dopo verrà l'enciclica di Pio X, Pieni l'animo, con la quale viene vietato ai sacerdoti di aderire alla Lega Democratica Nazionale. Gli atti più significativi della Lega in questa situazione di relativo isolamento in cui si muove il movimento nell'ambito del mondo cattolico italiano si riducono e si riassumono nei suoi congressi, nei congressi che tiene via via negli anni successivi, in alcuni numerosi e significativi opuscoli di propaganda che vengono diffusi in varie occasioni, e poi nel giornale L'Azione Democratica, che si pubblica a partire dal 1 maggio 1906 e che avrà poi alcuni mutamenti anche nella testata e mutamenti anche nella sede di stampa. Nel complesso direi una vita, se non stentata, perlomeno limitata, in ambiti abbastanza angusti. Io penso che qui più che riassumere, dare una sintesi che sarebbe certamente completa e non soddisfacente della vicenda di questo movimento, del quale ho voluto solo richiamare brevemente le posizioni di partenza, convenga cercare di coglierne alcune espressioni, alcuni aspetti più significativi, ripercorrendo lo sviluppo degli studi che su questo movimento della Lega Democratica Nazionale si sono avuti nel corso degli ultimi decenni, in maniera da tentare in qualche modo così un incontro, vorrei dire una sintesi, fra una prospettiva più espositiva di esposizione degli eventi e una prospettiva schiettamente storiografica come quella che hanno seguito gli amici italiani che mi hanno preceduto, Fonzi e Treniello, che mi pare rispecchiare in qualche modo necessariamente la vivacità del dibattito che in Italia si sviluppa su questi temi. Dobbiamo, credo, per capire l'iniziale scarso interesse per questo capitolo della storia del movimento cattolico, dobbiamo richiamare ancora una volta le condizioni di ambiente culturali in cui si sono avviati gli studi sul movimento cattolico. Si era conclusa fra il 43 e il 48, nei primi anni del dopoguerra, tutto un ciclo di studi storico-religiosi, credo che già Fonzi, del quale non ho potuto sentire la relazione, purtroppo abbia richiamato un po' questo quadro, ma mi limito a pochi accenni, legato ai nomi di Francesco Ruffini, di Adolfo Modeo, di Ernesto Codignola, di Arturo Carlo Jemolo, che avevano posto l'accento sul rivendicato il momento etico-religioso nella formazione dell'Italia moderna, dell'Italia unita. E si è aperta in quegli stessi anni, subito dopo, la via agli studi sul movimento cattolico e sul movimento socialista con un diverso intento. Vorrei dire, riprendendo le parole di Giorgio Spini, di recupero del momento organizzativo ed attivistico. La situazione dell'Italia del dopoguerra, l'emergere come forze prevalenti, egemoni ormai, della forza cattolica, della forza socialista e comunista, rendeva attenti gli studiosi a questi precedenti per capire la realtà stessa del paese. Di qui l'attenzione prevalente al momento organizzativo dell'intransigentismo, al momento direi forte dal punto di vista di massa dell'opera dei congressi, e inizialmente una minore sensibilità, una minore attenzione a questa fase, a questo capitolo della vicenda della Lega Democratica Nazionale, movimento elitario, movimento di gruppi ristretti meno incisivo e meno significativo. Nell'opera del Candeloro del 53 c'è un paragrafo informato sulla Lega Democratica Nazionale che non riesce però a inquadrare questo fenomeno nell'ipotesi interpretativa d'insieme di carattere marxista che, come è stato ricordato, il Candeloro propone. Nell'opera di Gabriele De Rosa, La storia politica dell'azione cattolica, che esce l'anno successivo, nel 1954, c'è qualcosa di più e di diverso, più che disattenzione, direi rifiuto ideologico della esperienza della Lega Democratica Nazionale. De Rosa tende in questa prima edizione della sua opera, come è noto, l'edizione più nota e oggi corrente, quella del 1966, che cambia titolo, Storia del Movimento Cattolico, vero? In questa prima edizione della sua opera, De Rosa tende ad esasperare il contrasto, la contrapposizione fra Romolo Murri e Luigi Sturzo, indica in Luigi Sturzo il momento di superamento, diciamo, dell'equivoco integralista nella storia del Movimento Cattolico e viceversa nella esperienza di Romolo Murri, all'insegna del modernismo nel suo insieme, semplicemente il rovesciamento in senso radicale, in senso laico, dell'integralismo leoniano. Forse vale la pena di leggere appena un passo del giudizio che formula Gabriele De Rosa. A proposito della concezione teocratica di Leone XIII, scrive: sogno ambizioso e gravido di pericoli per la Santa Sede, poiché il tentativo stesso di impadronirsi strumentalmente delle libertà moderne al fine di riconquistare al papato il dominio della società civile portava alla fine, logicamente, a sostenere che anche la Chiesa dovesse svecchiarsi a mano che si rivelava più difficile l'opera di recupero alla Chiesa di quel mondo moderno che era diventato di fatto apostata. Ma che cosa poi poteva significare quello svecchiarsi? Risponde De Rosa, un subordinarsi acritico e capitolardo, una capitolazione alle posizioni della democrazia moderna, ai concetti e ai bisogni della dimensione laica della società civile. La deformazione laicistica dell'organismo ecclesiastico diveniva così la condizione di base di quell'operazione di recupero delle masse alla Chiesa che era l'obiettivo dei modernisti politici, di Romolo Murri in particolare. E naturalmente ciò si sarebbe alla fine rovesciato e concluso in una deformazione clericalistica dello Stato e dell'intera società civile. L'origine e la natura essenzialmente politiche del modernismo italiano rivelavano così, con più palmare evidenza, la contraddittorietà del tentativo modernistico stesso e le sue profonde radici reazionarie. Dunque, in definitiva, in questo giudizio di Gabriele De Rosa, il tentativo di Romolo Murri che si esprime nell'esperienza della Lega Democratica Nazionale e tutto il contesto del modernismo nel quale in qualche modo egli lo colloca è un tentativo reazionario. Questo giudizio così duro, di così netta rottura fra l'esperienza murriana e l'esperienza sturziana del primo dopoguerra aveva le sue radici, mi sembra giusto e utile per l'informazione anche degli amici tedeschi sottolinearlo, aveva le sue radici, la sua premessa, nell'atteggiamento assunto nel secondo dopoguerra da quel movimento dei cattolici comunisti, nel cui ambito De Rosa stesso si era mosso, al quale aveva partecipato, che tendeva in qualche modo a sottolineare il suo distacco dalle posizioni del riformismo religioso del primo Novecento, a rifiutare radicalmente l'eredità del modernismo e portava viceversa il confronto con il marxismo sul terreno di un'accettazione del materialismo storico distinto dal materialismo dialettico come strumento di conoscenza e di presa, direi, sulla società e sulla realtà storica. Ancora una volta troviamo questo stretto legame, verifichiamo questo stretto legame che c'è negli studi sul movimento cattolico e non solo in questo campo, fra politica e storia, fra situazioni storiche in cui gli studi sorgono e si sviluppano e il modo di esprimersi di questi stessi studi, un legame, ho l'impressione che abbia un po' turbato i nostri amici tedeschi, che hanno forse l'impressione di una storiografia eccessivamente condizionata dal momento politico, un legame che certamente ha dei pericoli, ma che nel complesso si è risolto anche, io credo di poterlo dire, in un grande arricchimento, in un motivo di grande vivacità e di grande, diciamo, impegno degli studi storiografici italiani degli ultimi decenni. Ebbene, in questa situazione di relativo di disinteresse, grazie, di relativo disinteresse o di rifiuto in qualche modo preconcetto ideologico dell'esperienza della Lega, si trattava inizialmente di recuperare, vorrei dire, dall'interno il significato di questo movimento, di questa fase di sviluppo del movimento cattolico italiano, a prescindere da ipotesi ideologiche preordinate. E su questa linea si è mosso, mi perdonerete se ricordo, un articolo che io scrissi su consiglio dell'amico Ettore Passerenda Antrel, che rappresentava per noi, allora, le primissime armi, un punto di saldatura, soltanto per la differenza di pochissimi anni di età, con la storiografia tradizionale più accreditata, e che fu pubblicato nel 1957 sulla rivista Storica Italiana per l'interessamento personale, ricordo, di Federico Chabot. Voleva appunto questo mio primo studio sulla Lega Democratica Nazionale rappresentare il recupero, direi, dall'interno di quella che era stata la problematica propria del movimento, tutta incentrata sul tema del rapporto fra cattolicesimo e democrazia. E quindi diretto a mettere in evidenza come per i promotori, questi giovani che si erano riuniti nella Lega Democratica Nazionale, la democrazia avesse un suo profondo valore e significato religioso. E questo emergeva con chiarezza dai documenti stessi del movimento, dai documenti stessi della Lega. Basta leggere qualche brano della relazione preparatoria al primo congresso che si tiene a Milano nel settembre del 1906, in cui si indicano gli obiettivi del movimento: rimanere fedeli alla democrazia, in quanto essa è moto che tende alla elevazione e alla liberazione dei salariati, compiuta per l'azione diretta e cosciente del proletariato medesimo. Ecco, siamo decisamente al di là di quella definizione che ricordavamo già l'altro giorno della democrazia, che si legge nella Graves de Comune come actio benefica in populum, vero? Ed accompagnata, preparata e integrata da corrispondenti mutazioni negli istituti e nei rapporti economici e nell'ordinamento dello Stato. Accettare e promuovere il cristianesimo non come speciale forma o pretesto o programma dettagliato di raggruppamento politico, ma come spirito e precetto di amore e di bene che deve essere ispiratrice, ispiratore della vita pubblica. A fianco a questa affermazione del valore religioso della democrazia, che si muoveva in Italia in fondo in parallelo a quanto avveniva in quegli stessi anni ed era avvenuto già negli anni immediatamente precedenti in Francia nel movimento degli Abbé Democrate e poi nel movimento del Sillon di Marc Sagné, la rivendicazione netta e ferma dell'autonomia dell'azione politica dei cattolici di fronte al momento istituzionale gerarchico della Chiesa. Murri non aveva, aveva tentato, come è ben noto, il pieno coinvolgimento della Chiesa nella sua proposta guelfa. I propositi di parte guelfa rappresentano un programma, oggi si direbbe con espressione corrente, integralistico. Murri indicava un programma di rinnovamento sociale guidato dalla Chiesa e dal clero, e il successivo autonomismo che si era espresso nelle file della democrazia cristiana murriana aveva avuto sostanzialmente un carattere tattico. Murri stesso lo riconosce in una pagina delle battaglie d'oggi, in una nota di carattere storico retrospettivo. Questa autonomia di fatto non fu mai dai giovani elevata a principio. Essi mostrarono di ritenerla come una necessità provvisoria e continuarono a considerarsi parte della grande organizzazione generale delle forze cattoliche, vale a dire una autonomia tattica come strumento per far prevalere e conquistare l'intero movimento cattolico alle proprie posizioni, ma non affermazioni di principio di un momento autonomo politico rispetto alla gerarchia ecclesiastica. Viceversa, abbiamo nella Lega Democratica Nazionale, per la prima volta in un movimento che si è formato in certo modo dall'alveo del movimento cattolico organizzato, la ripresa, il recupero di quello che era stato un'affermazione del cattolicesimo liberale ottocentesco, questo momento di libertà e di responsabilità personale del credente nella vita politica, e che aveva meritato ai cattolici liberali italiani o ai conciliatoristi l'accusa di protestantesimo politico rivolta loro dalla civiltà cattolica e dalle voci dell'intransigenza cattolica. Ebbene, questa rivendicazione di autonomia si esprime nei documenti, nei dibattiti della Lega, adesso non voglio annoiarvi con troppe citazioni, attraverso uno sforzo di giustificazione culturale, di motivazione culturale, che non può non far ricorso a quello che era, che erano gli strumenti culturali del tempo, ossia una distinzione di tipo tomista, o se vogliamo neotomista, fra i diversi piani, il piano della vita religiosa, il piano politico, omogeneo del resto, distinzione e tipo di motivazioni omogenee alla cultura di Romolo Muri e alla sua formazione profondamente tomista, è rimasta tale fino al suo distacco dalla Chiesa. È chiaro, mi sembra, che su queste basi la Lega non poteva non rivolgere una viva attenzione ai temi di politica ecclesiastica, temi che proprio in quegli anni andavano riprendendo, andavano riprendendo in Italia un particolare interesse sulla base di una, di una rinascita in qualche modo, di un anticlericalismo più polemico e più aggressivo, che era la risposta dell'estrema sinistra, dei socialisti, dei radicali, al clima creato dal clerico moderatismo. Proprio nel 1908 abbiamo nel Parlamento nazionale la discussione di una mozione Bissolati per una piena laicizzazione della scuola e per una attuazione più rigorosa della legge Coppino del 1977, che in qualche modo aveva già indicato questo obiettivo della laicità dell'insegnamento nella scuola elementare. Compare nel settembre del 7 un programma di politica ecclesiastica della Lega Democratica Nazionale, che è interessante perché questa rivendicazione di laicità dello Stato è fondata su motivazioni religiose. Abbiamo l'accettazione di una prospettiva di piena laicità dello Stato, ma con motivazioni del tutto autonome e profondamente diverse da quelle del laicismo dell'estremo. E abbiamo in questi documenti una accettazione finalmente non strumentale, ma piena a livello di valore delle libertà moderne, del concetto stesso dello Stato, mentre l'accettazione dello Stato da parte della prima Democrazia Cristiana nella fase precedente, per non dire del movimento intransigente, che non l'aveva accettato, vero? Si era mossa piuttosto a livello delle ipotesi e non era mai giunta a livello della tesi, vero? Tutti ricordano la famosa distinzione fra tesi e ipotesi con la quale si cercò di rispondere al disagio creato dalla pubblicazione del sillabo. Abbiamo cioè un sostanziale recupero e un sostanziale ritorno ad alcuni motivi della tradizione cattolico-liberale che sembrava in qualche modo cancellata e messa in ombra dal prevalere della tendenza intransigente. E questo recupero di motivi della tradizione cattolico-liberale era simbolizzato, direi espresso fisicamente, vero, nella Lega, dalla presenza e dalla partecipazione al movimento, sia pure in una forma distaccata, non di pieno e totale impegno, di Tommaso Gallarati Scotti, il grande amico di Antonio Fogazzaro, esponente del riformismo religioso, culturale del primo Novecento, promotore insieme a Stefano Iacini, insieme a Alessandro Casati e Antonio Iaci Alfieri, della rivista Il Rinnovamento, che si pubblica a Milano e che è una delle voci più significative del modernismo italiano. Al Gallarati Scotti viene affidato il compito di svolgere nel secondo congresso della Lega Democratica Nazionale nazionale che si tiene a Rimini nel settembre del 1908, la relazione sulla politica ecclesiastica. E qui abbiamo di nuovo una forte sottolineatura della ispirazione religiosa di un programma separatista nei rapporti fra Stato e Chiesa. Dice Gallarate Scotti: i criteri che informano il nostro programma di separazione li abbiamo attinti dal più profondo della nostra fede. Essi procedono dal più intimo della nostra vita spirituale, poggiano sopra la certezza religiosa che la logica fatale di sviluppo della società democratica non può in nessun modo rappresentare un pericolo per il cattolicesimo, ma solo risospingerlo verso quella che è la sua sfera d'azione, sfera superiore e intangibile dalla quale illumina le coscienze, eccetera. Su questa base, su questa premessa, abbiamo la proposta di una radicale laicizzazione dell'insegnamento a livello elementare e viceversa abbiamo la proposta di un recupero del tema religioso a livello di istruzione superiore. Voi sapete che in Italia era stata ancora dalla destra al potere, uno degli ultimi atti della destra nel 1873, erano state abolite le facoltà teologiche di Stato e in qualche modo gli studi religiosi erano stati esclusi dalle università italiane, poi rientreranno sotto forma di storia del cristianesimo. Ma abbiamo una situazione di disinteresse in qualche modo della cultura ufficiale e della università italiana per i temi più propriamente religiosi. È interessante questa proposta del 1907 perché nello stesso anno abbiamo a Napoli un congresso degli insegnanti medi al quale congresso Giovanni Gentile, che sarà poi il filosofo vero del fascismo, del regime fascista, presenta una sua relazione in cui propone, viceversa, fa una proposta rovesciata, ossia una presenza della religione nella vita della scuola, nella scuola ai livelli inferiori, in quanto si riconosce alla religione una funzione di educazione della coscienza a un livello più infantile, per poi viceversa escluderla dai livelli superiori quando lo spirito ha conseguito gentilianamente, idealisticamente, piena coscienza di sé ed ormai è libero dal pregiudizio religioso. Quindi vediamo questo gruppo di cattolici che su basi religiose e con premesse religiose sostiene la laicità dell'insegnamento nel momento stesso in cui nella cultura italiana si va delineando una utilizzazione della religione che poi raggiungerà le sue forme più significative e più direi importanti politicamente proprio con la riforma Gentile, proprio negli anni del fascismo. Documenti pubblicati di recente, lettere conservate nell'archivio della Biblioteca Ambrosiana di Milano, dell'archivio Gallarate Scotti, hanno sottolineato come questa partecipazione di Gallarate Scotti all'esperienza della Lega non sia stata un fatto, direi, estemporaneo e occasionale, ma come già nel 1902 e poi negli anni successivi Romolo Mori si rivolgesse a questo esponente della cultura, possiamo dire cattolico-liberale, come tradizione di fondo, per riconoscere i suoi torti, i limiti della sua precedente impostazione guelfa e chiedere un aiuto e un sostegno per un'opera di rinnovamento culturale e religioso riconosciuta ormai necessaria per un diverso impegno ed una diversa presenza di cattolici nella vita politica italiana. Non sto qui adesso a dare citazioni di brani per non allungare troppo il mio discorso. Dunque questo mi pare è il primo aspetto che la ricerca, la riflessione storica sulla Lega Democratica Nazionale ha messo in evidenza e che è stato arricchito dagli studi successivi, lo studio di Broggi, la Lega Democratica Nazionale, che compare pochi anni dopo, quello di Claudio Giovannini, Politica e Religione nel pensiero della Lega Democratica Nazionale, che compare nel 1968 e che significativamente è dedicato a Tommaso Gallarate Scotti, ed altri studi, non sto qui a allungare l'elenco, tutti gli studi sulla figura di Tommaso Gallarate Scotti, vedo qui presente Nicola Raboni, che ha steso una bella biografia del Gallarate Scotti. Ma direi che il significato culturale e religioso che io ho cercato ora, e spero di essere stato chiaro e di sottolineare, emerge anche dal confronto con gli studi sul movimento cattolico nel loro insieme, e sui temi e sui problemi che questi studi hanno messo a fuoco. Per esempio, lo sviluppo degli studi sul cattolicesimo sociale, e non solo in Italia ma anche in altri paesi, ha messo in evidenza con chiarezza l'angustia, torno su questo punto che mi pare molto importante, di quella definizione di democrazia data dai documenti pontifici. La democrazia come giustizia sociale che esclude in qualche modo la democrazia politica, e hanno messo in evidenza tutte le conseguenze, tutti gli equivoci che da questa concezione della democrazia sono derivati nello sviluppo del cattolicesimo sociale del primo Novecento. Ad esempio, nel volume così documentato del, qualcuno di loro certamente lo conosce, del padre Drulers sull'Action Populaire in Francia, troviamo questa affermazione del direttore dell'Action Populaire, il padre Debussy: il cattolicesimo sociale rappresenta uno sviluppo logico, normale, oggettivo della dottrina immutabile della Chiesa. L'impegno nella socialità e per la giustizia sociale viene concepito come conseguenza deducibile rigorosamente dalle premesse della fede e dell'etica cattolica. E da questa concezione del cattolicesimo sociale derivava fatalmente la pretesa ad una unità di tutti i cattolici intorno a questo programma sociale, con la conseguenza ulteriore, storicamente verificata, poi puntualmente verificata dallo sviluppo dei diversi movimenti, mi pare un po' in tutti i paesi, del trasferimento del dibattito nell'ambito del cattolicesimo sociale dal terreno economico-sociale a quello della ortodossia, con l'ulteriore conseguenza di un tentativo continuo di accaparramento dell'autorità da parte dei diversi gruppi e delle diverse correnti, per far valere la propria posizione come l'unica autentica, l'unica cattolica, l'unica coerente deduttivamente da quelle premesse di fede, da quelle premesse morali. Ecco, la rivendicazione dell'autonomia che abbiamo così esplicita e così chiara nel movimento dei giovani democratici cristiani della Lega, su cui ho insistito, rappresenta in radice il superamento di questo equivoco e in qualche modo segna un mutamento di qualità nella storia del movimento cattolico italiano. Uno degli aspetti di questa interpretazione della Lega Democratica Nazionale che più si è arricchito con gli studi successivi è quello del suo rapporto e della posizione di Romolo Murri rispetto al modernismo. Lo stesso Romolo Murri, nello scritto del 20, dalla Democrazia Cristiana al Partito Popolare, aveva in qualche modo autorizzato l'immagine di un modernismo politico di cui lui stesso si presentava come protagonista. Aveva paragonato il tentativo di Loisy di conciliare la critica storica con il dogma cattolico, e il tentativo di Tyrrell di conciliare il dogma con l'esigenza della coscienza individuale, al suo tentativo di conciliare cattolicesimo e democrazia, tentativi, diceva Murri nel 20, ormai distaccato dalla Chiesa, tutti falliti e che esprimevano la irriformabilità della Chiesa, l'impossibilità di un suo rinnovarsi. Ma in realtà poi la stessa opera del Rivière sul modernismo, l'opera classica di Jean Rivière sul modernismo, aveva messo in evidenza quanto della polemica contro il modernismo politico fosse opera, iniziativa degli integristi che volevano colpire la democrazia cristiana insieme al modernismo teologico, per combattere e far cadere queste tendenze più avanzate sul piano sociale e politico. Ora, le ricerche che sono state fatte, cito per tutti il saggio di il volume di Maurilio Guasco, qui presente, che potrà poi intervenire, Romolo Murri e il modernismo, che compare a Roma nel 1968. Ecco, questi studi hanno messo in evidenza che se di modernismo si può parlare per Murri, tutto al più si deve restringere e limitare alla fase successiva al suo distacco dalla Chiesa, alla fase cioè posteriore al 1909, che il modernismo non è la causa del distacco di Muri dalla Chiesa, che avviene piuttosto su motivi disciplinari, e che questo modernismo muriano in realtà si esprime in una concezione della democrazia, possiamo dire, di tipo immanentistico, che si manifesta al congresso, al terzo congresso della Lega ad Imola, e più ancora nel 1911 in quell'invito a perdersi nella democrazia che Muri rivolge ai democratici cristiani, che in qualche modo suona dissolvimento dei valori religiosi nella democrazia stessa. Viceversa, gli studi sul modernismo hanno messo chiaramente in evidenza che se di modernismo politico si deve parlare, questa espressione va piuttosto riferita alla esperienza di Buonaiuti, giovane, alle sue lettere di un prete modernista, a quella proposta di un socialismo cristiano che Buonaiuti formula negli anni immediatamente successivi alla Pascendi, in cui cristianesimo e progresso sociale e lotta di progresso sociale vengono a identificarsi senza residui, in cui il cristianesimo perde la sua dimensione trascendente, la sua dimensione verticale, si dice oggi, vero, e si risolve in questa spinta al progresso sociale. Sarebbe interessante, ma semmai si potrà fare una discussione, sottolineare la profonda differenza che c'è fra questi diversi tentativi di avvicinamento al socialismo da parte di cristiani. Il socialismo cristiano di Buonaiuti, che non ha nessuna motivazione che si possa in qualche modo attingere ad una cultura di tipo marxista ancora poco diffusa in Italia, il tentativo dei cattolici comunisti nel secondo dopoguerra, che viceversa rifiuta il riformismo religioso e si fonda su un'accettazione critica di una parte della cultura e della dottrina marxista, e ancora l'affermazione dei cristiani per il socialismo di oggi, che assume il marxismo come strumento di analisi e di critica all'interno, direi, della stessa istituzione ecclesiastica, della stessa vita ecclesiale. Tentativo così di confondere queste diverse esperienze e questi diversi momenti sotto un'unica etichetta è, a mio avviso, culturalmente molto discutibile. Dunque, questa prima intuizione sul valore dell'esperienza della Lega sul terreno culturale e religioso si è arricchita e si può riassumere in questi motivi che ho già enunciato: la Lega come momento di maturazione necessaria nel cattolicesimo italiano per un'accettazione non strumentale della democrazia, per un superamento degli equivoci della prima democrazia cristiana e dello stesso cattolicesimo sociale. Gli stessi motivi di insuccesso finale e complessivo del movimento sono indicativi di alcune condizioni di questo processo di crescita culturale e religiosa. Occorreva, questo emerge dall'esperienza della Lega, non perdere il senso della tensione fra religione e politica, non risolvere la fede religiosa nella democrazia, come appunto Muri tenta di fare nel congresso di Imola. Occorreva, per l'efficacia stessa dell'azione, non perdere il contatto con la Chiesa, non trasformare il dissenso su una scelta politica in rottura religiosa. Nello stesso congresso di Imola, in cui si manifesta la tendenza di Romolo Muri di rottura ormai con la Chiesa, abbiamo da parte di Eligio Cacciaguerra, che rappresenta un po' l'altra anima, l'anima direi più cattolica in quest'ultima fase del movimento, abbiamo questo esplicito ammonimento alla necessità di non trasformare mai il dissenso con la Chiesa, che sul terreno politico può esistere, può esprimersi e può anche imporre un atteggiamento di resistenza, non trasformarlo mai in rottura religiosa con la Chiesa. Ma proprio per una accettazione non strumentale della democrazia, per una reale costruzione di questo valore dell'autonomia politica dei cattolici, era necessario, e per superare le resistenze stesse della Chiesa, era necessario che tutto questo poi si traducesse in qualche modo in una proposta politica capace di coinvolgere delle forze reali nella vita del Paese. E questo è quello che è avvenuto con il Partito Popolare di Luigi Sturzo. Sicché sembrava, da questi primi studi e in questa impostazione del significato della Lega, che la Lega rappresentasse in qualche modo solo una premessa a livello culturale e religioso di quello che più compiutamente sul piano politico si realizza nella esperienza del Partito Popolare del primo dopoguerra. Mentre Gabriele De Rosa, nella pagina che ho ricordato, tendeva a spezzare questa continuità, a contrapporre, direi, antiteticamente la figura di Romolo Mori a quella di Luigi Sturzo, da questo tipo di discorso emergeva piuttosto il senso di una continuità, la Lega come premessa, momento di premessa culturale e religiosa per l'opera di Sturzo nel primo dopoguerra. C'è stato qualche sviluppo ulteriore e qualche sottolineatura nuova, anche se non ci sono stati altri, mi pare, volumi o opere di insieme significative, oltre quelle che ho ricordato. Qualche sottolineatura è venuta negli studi successivi, che ha messo in evidenza, più esplicitamente di quanto non si fosse fatto inizialmente, il significato della Lega anche sul terreno propriamente politico. Sicché essa non sarebbe soltanto un'anticipazione di tipo culturale della proposta popolare, ma anche sul piano politico già ne conterrebbe un po' in embrione tutta la sostanza più significativa. Nella relazione che ha tenuto a Fermo al congresso su Romolo Mori nella storia politica e religiosa del suo tempo, questo è il motivo che emerge dalla relazione presentata a due voci, Traniello e, da Francesco Traniello e da Sandro Fontana, ma credo che la parte finale, la seconda parte, sia da attribuire a Sandro Fontana. E Sandro Fontana sottolinea esplicitamente come la proposta del Mori fosse fondata su una possibile alleanza fra i ceti medi e quelle classi agricole e proletarie emarginate dall'area riformistica giolittiana. Ossia tende a collocare l'esperienza della Lega nell'area politica dell'antigiolittismo. E per questo io ieri facevo quella precisazione sul significato e sulle possibili ambiguità del giolittismo e dell'antigiolittismo. Qui abbiamo un antigiolittismo, vorrei dire, da sinistra, in quanto si avverte che il blocco che sostiene la politica giolittiana emargina determinati ceti sociali, in particolare il mondo contadino, le classi agricole, e che un'alleanza capace di coinvolgere ceti medie e classi agricole può rappresentare un'alternativa al blocco giolittiano e un motivo di progresso rispetto alle posizioni raggiunte in quegli anni. Mori, scrive ancora Fontana, lo cito per essere più breve, leggo per essere più breve, operò costantemente nel senso di gettare un ponte che partisse dai cattolici democratici per raggiungere i partiti dell'estrema. Ecco l'altro elemento politico che in questa relazione viene sottolineato. Per compiere in prospettiva questa saldatura si poneva una duplice esigenza: fare della condizione dei cattolici una questione non particolare né che riguardasse essi soli, bensì realmente una questione nazionale collegata allo sviluppo di tutta la società italiana, e insieme rielaborare in un quadro nuovo che tenesse conto degli apporti della cultura laica antigiolittiana l'antico atteggiamento di opposizione allo Stato liberale. E Fontana indica, crede di vedere una conferma a questa sua affermazione nell'attenzione, che di fatto è un dato reale, che c'è in tutti i congressi della Lega per i maggiori problemi del Paese, dalla difesa delle autonomie locali alla questione meridionale, dalla riforma agraria ai problemi economico-sociali e sindacali. E così l'adesione dei lavoratori cattolici alle Camere del Lavoro, oppure l'alleanza con i partiti socialisti e radicali per battere candidati clerico-moderati. Ossia abbiamo in questi ultimi studi una sottolineatura nuova del significato propriamente politico della Lega, che si riconduce a questa direi tradizione fondamentale del cattolicesimo democratico di presentarsi come ponte, come punto di riferimento per un'alleanza fra ceti medi e ceti contadini capace di coinvolgere le classi popolari e offrire un'alternativa alla egemonia borghese. E proprio in questi ultimi studi, in questi ultimi saggi, ricordo questo studio di Cecchini, Francesco Cecchini, su Mori e il murismo, è stato sottolineato un interessante precedente alla Lega Democratica Nazionale. Agli inizi del 1905, in qualche modo sulla scia del fallimento della proposta mediatrice del 1902, abbiamo da parte di Romolo Mori la proposta di un centro capace di raccogliere l'eredità della democrazia cristiana e del cattolicesimo sociale e di realizzare in qualche modo una sintesi politica su posizioni più avanzate rispetto alla linea clerico-moderata che intanto si era già annunziata e si veniva diffondendo, e che potesse appunto coinvolgere i ceti contadini e ceti medi italiani. Una ulteriore conferma di questo significato politico della Lega Democratica Nazionale e non soltanto culturale e religiosa emerge, mi sembra, e sono ormai alla fine della mia esposizione, da una breve considerazione sui motivi di crisi finale del movimento. In realtà il conflitto con l'autorità ecclesiastica aveva sì privato la Lega di un seguito di masse, l'aveva messa in crisi al suo interno nel congresso di Imola del 10, ma non aveva impedito a Eligio Cacciaguerra in qualche modo di ritrovare una strada e di proseguire l'azione. Poi la Lega muterà nome, si chiamerà Lega Democratica Cristiana Italiana, dopo il congresso di Firenze dell'11, continuando in qualche modo il discorso avviato. Quello che viceversa mette definitivamente in crisi il movimento è la polemica sull'interventismo e sul neutralismo. La polemica cioè che si accende, che si apre nel nostro paese in quell'intervallo di tempo che va dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale all'entrata in guerra dell'Italia nel maggio del 1915. Vi è un motivo comune a tutte le posizioni della sinistra cattolica, chiamiamole pure con questa espressione impropria, di fronte al problema della guerra, ed è il rifiuto di quell'atteggiamento attendista prevalente nel movimento cattolico ufficiale, nel movimento dell'Unione, l'atteggiamento di lealtà verso lo Stato e verso l'autorità governativa e di disponibilità dei cattolici ad obbedire. In questi gruppi della sinistra, sia il gruppo Migliolino, il gruppo di Miglioli, che si esprime nell'azione di Cremona, il periodico di Miglioli, sia il gruppo della Lega Democratica Cristiana Italiana che si esprime nell'azione di Cesena, abbiamo il rifiuto di questo attendismo e viceversa l'affermazione della volontà e della responsabilità dei cattolici di contribuire al dibattito con una loro propria posizione, spingendo verso appunto uno sbocco politico. Lo stesso Salvemini riconosce sull'unità che il dibattito sul tema dell'intervento è condotto dai giovani della Lega sulle pagine dell'azione di Cesena in maniera concreta, perfettamente concreta, imbevuta del senso storico, del senso pratico dell'attualità, ossia è un fatto politico, non più un dibattito religioso. Le motivazioni dell'interventismo democratico che è prevalente nel gruppo di Cesena, nel gruppo di Eligio Cacciaguerra, e che è in conflitto col gruppo di Guido Miglioli, che si esprime appunto, come ricordavo, nell'azione di Cremona. Le motivazioni sono comuni in qualche modo a quelle di tutto l'interventismo democratico italiano e si rifanno al motivo delle libere nazionalità oppresse dall'impero austro-ungarico, ossia si rifanno alla tradizione propriamente mazziniana del nostro risorgimento. Dunque si tratta, e mi pare giusto sottolinearlo come premessa di quello che sto per dire, di un interventismo opposto a quello prevalente nell'opinione pubblica italiana, nella borghesia, fra i ceti medi italiani, di tipo nazionalista, condizionato dalla vivace propaganda d'annunziana. È un interventismo in cui il concetto stesso di nazione è radicalmente diverso rispetto a quello che assume nella propaganda nazionalista. La nazione dell'interventismo democratico è la nazione di Mazzini, è l'indicazione di un servizio, di un motivo di servizio nell'ambito di nazioni affratellate e concordi, non è l'indicazione di un motivo di predominio, di supremazia, come invece avviene per il concetto di nazione nella propaganda nazionalista. Mi pare giusto sottolineare questo distacco. Ma di fatto, politicamente, sul piano dei risultati politici, la scelta interventista della Lega Democratica Nazionale viene in qualche modo fatalmente a mettere in crisi l'idea di fondo di un coinvolgimento dei ceti medi in una politica democratica a fianco e non contro le forze popolari. Le forze popolari, largamente rappresentate dal Partito Socialista, si muovevano, come è noto, in Italia su posizioni neutraliste. Il Partito Socialista Italiano è l'unico che rimane fedele al pacifismo della Seconda Internazionale, mentre in altri paesi ci sono crisi e cedimenti. Quindi, in qualche modo, questa scelta interventista creava le premesse di quello che poi sarà di fatto il passaggio al fascismo di questi stessi ceti medi e della borghesia italiana. Quindi mi sembra che questa considerazione sui motivi finali di crisi del movimento, che si lascera tutta lo schieramento, direi, degli eredi della Democrazia Cristiana, viene a lacerarsi insieme a tutta l'opinione pubblica italiana sul motivo della guerra, non fa che sottolineare il carattere non solo culturale e religioso, ma anche politico, che il movimento ha assunto. In conclusione, direi, non si può contrapporre antiteticamente Lega e Partito Popolare, occorre collocare questi due momenti, queste due esperienze come momenti diversi di un unico processo di crescita con le sue contraddizioni e con le sue difficoltà. Sia sul piano religioso e culturale che su quello politico, la Lega, l'esperienza della Lega Democratica Nazionale può essere assunta come un utile punto di riferimento per l'identificazione di una tradizione cattolico-democratica in Italia, pur con i limiti e con le contraddizioni che emergono dalla scelta interventista di cui ho detto. E qui, scusate, un'ultima brevissima osservazione per ricollegarmi a tutti i riferimenti che sono stati fatti nel corso delle precedenti relazioni sull'Italia e del dibattito a quello che è stato chiamato da Treniello, l'orientamento della storiografia neomarxista. L'esperienza della Lega, così come io ho cercato di ricostruirla, spero con sufficiente chiarezza, e senza tradire soprattutto la fondamentale realtà dei fatti, rappresenta un elemento di incrinatura in quella interpretazione che vede la storia del movimento cattolico all'insegna dell'inserimento nel mondo capitalistico. Perché tutto il movimento si muove sotto una logica diversa. Certo, è un movimento minoritario, è un movimento di sconfitti, ma nella misura in cui ha contribuito a preparare ulteriori sviluppi, mi pare che spezzi perlomeno la rigidità di questa interpretazione. Certamente questa interpretazione ha avuto il grande merito di allargare in qualche modo la prospettiva della storia del movimento cattolico, di inserire più profondamente la storia del movimento cattolico nella storia nazionale, ma come appunto sottolineava Francesco Treniello, e non sto qui a ripetere e a sottolineare a riprendere le sue conclusioni, Non si può applicare a fenomeni di questo tipo nessun criterio che porti a livellare e a perdere l'identità stessa di esperienze e di momenti così diversi, e una di queste esperienze significative e in qualche modo che deve conservare la sua individualità, a me sembra sia proprio quella della Lega Democratica Nazionale. Faccio subito la faccio presa. Herr Scoppola, der deutschen Kollegen das vorzustellen, Professor für Zeitgeschichte an der Fakultät di Magistero an der Universität Rom und früher an der Fakultät di Scienze Politiche, Storia della Chiesa e delle Relazioni fra Chiesa e Stato unterrichtet hat, behandelt hier eine besondere Erscheinung der Jahre zwischen 1906 und dem Ersten Weltkrieg, beziehungsweise die ja dann ausgeht noch in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, nämlich die Lega Democratica Nazionale, der jungen Vertreter der christlichen Demokraten, die sich um die bedeutende Gestalt von Romolo Murri geschart haben. Der Ausgangspunkt sind Ereignisse, von denen wir gestern schon gesprochen haben, das Scheitern der Operation oder des Vorgehens Leo des 13. Gegen die Intransigenti, aber auch gegen, schon gegen Murri, gegen diese demokratische Richtung, die sich jener Ereignissen, jener Entwicklung des Klerikomoderatismus, über den wir gestern sehr viel gesprochen haben, ja entgegengesetzt haben. Die Wahlen von 1904 sind hier ein Ausgangspunkt. Es ist die Unzufriedenheit der christlichen Demokraten, die sich eben nicht in diese, die wohl die Eingliederung in den italienischen Staat auch befürwortet haben, aber die sich diese Eingliederung eben anders vorgestellt haben, nicht im Zeichen des Bündnisses mit dem Moderatismus, sondern im Zeichen des Bündnisses mit den linkeren, mit den demokratischen bzw. sogar sozialistischen Kräften. Wobei wir gleich sagen müssen, dass nicht alle diese demokratischen Christianen diesen Weg folgen, sondern viele, darunter auch manche, die im ersten Augenblick ganz scharf dagegen Stellung nehmen, etwa gegen die Ausbildung des Klerikomoderatismus, wie etwa Bertini oder der schon erwähnte Filippo Meda, Valenta und andere, sich dann doch für diesen Weg oder diesen Weg hinnehmen oder wie Don Luigi Sturzo etwa aus diesem Dilemma durch die eine Art Flucht in die Esperienza Administrativa, das heißt in die lokale politische Arbeit, sich zu entziehen versuchen. Die Gruppe, mit der wir uns auch zu beschäftigen haben, die eben die Lega Democratica Nazionale bilden, sind diese jungen christlichen Demokraten um Romolo Murri, die sich im Herbst 1905 in einem Kongress in Bologna formieren und die hier mit dem Anspruch auftreten, die jungen und proletarischen Elemente in der katholischen Bewegung zu vertreten. Eine Bewegung, die keine Partei sein will, sondern ein Movimento di Opinione, die übrigens sofort von Anfang an von den Bischöfen und dann sehr bald auch von Papst Pius X. Sehr scharf abgelehnt werden, deren Tätigkeit sich im Wesentlichen beschränkt auf ihre zahlreichen Kongresse, jedes Jahr ein Kongress, dazu eine Publikation zahlreicher kleinerer Schriften, also eine Literatur von Opuscoli, etwa kleinen Pamphletliteratur und ihre Zeitschrift Azione Democratica, die im Mai 1906 zu erscheinen beginnt. Nun ist Herr Scopola nach dieser Darstellung der Entstehung übergegangen auf die Frage, die er immer parallel auch zur Geschichte behandelt hat, das, was der Zusammenfassung gewisse Schwierigkeiten bietet, nämlich der Studien über diese Bewegung. Er hat darauf hingewiesen, dass es ursprünglich für diese Bewegung ein geringes Interesse gegeben hat. Das hängt zusammen mit der schon gestern, vorgestern von Herrn Fonzi, gestern von Herrn Traniello behandelten Entwicklung der Studien und Arbeiten über die christliche Bewegung, über den Movimento Cattolico seit 1943, die erste Phase bis 1948 mit Rufini, Jemolo und Omodeo, die sich und eben mit der Verbindung dieser Bewegung als Vorläufer der Democrazia Cristiana beschäftigen. Er weist darauf hin, dass etwa Candeloro in dem schon gestern erwähnten Buch der Marxist Candeloro nur ein ganz kleines Kapitel der Lega widmet und dass Gabriele De Rosa in seiner Geschichte der Azione Cattolica, die dann als Storia del Movimento Cattolico entschieden ist, nur den Gegensatz zwischen Sturzo und Murri sehr stark herausstellt, wobei er geradezu in einer gewissen terminologischen Dialektik die Bewegung Murris, die Lega, geradezu als reaktionär bezeichnet hat, worauf was auch damit zusammenhängt, dass Gabriele De Rosa ja ursprünglich in dieser Bewegung der katholische Kommunisten gewesen sei. Eine kleine Bemerkung von Herrn Scopola, die an die deutschen Kollegen gerichtet ist, sie sollten nicht erschrecken, dass dass die italienische Historiografie so stark immer von der jeweiligen politischen Situation beeinflusst ist, gewiss durch die bestimmten Gefahren, es bedeutet aber doch auch eine gewisse Bereicherung. Und er hat dann darauf hingewiesen, dass die eigentliche Entdeckung oder intensive wissenschaftliche Beschäftigung mit diesen Werken von unserem Freund Passerein d'André und seiner Schule, die hier ja so stark vertreten ist, oder seinen Freundeskreis, begonnen worden ist mit einem Artikel von Passerein d'André auf der Rivista Storica Nazionale vom Jahre 1957. Italiana, Rivista Storica Italiana, naturalmente. Rivista Storica Italiana von damals noch von Chabot herausgegebenen 57 erschienen ist, die sich mit dieser Entwicklung beschäftigt hat und die gerade den demokratischen Charakter der Bewegung verfolgt und sie aber auch in Parallele sieht mit gleichzeitigen anderen Bewegungen, wie etwa jener in Frankreich, die sich ja gegen die zur Überwindung des Gegensatzes des Dreyfus-Konfliktes gebildet hat, Sillon von Marc Saunier und ähnliche Dinge. Hier besonders hervorgehoben, dass der Autonomiewille der Lega Democratica Nazionale innerhalb der Kirche keineswegs ein Separatismus ist, keineswegs die Absicht, die Kirche zu spalten, sondern erfüllt ist von der Hoffnung, dann die Gesamtkirche zu gewinnen. Allerdings sind von den anderen katholischen Gruppierungen und Richtungen gegen diese Gruppe der Vorwurf dann des politischen Protestantismus erhoben worden. Herr Scopola hat dann darauf hingewiesen, dass Murri ja selbst aus einer thomistischen, aus dem Neotomismus her stammte und dass das große Problem des Verhältnisses von Kirche und Staat auch ihn beschäftigt hat und diese ganze Bewegung beschäftigt hat, wobei sie die Tradition, die antitemporalistische Tradition, die es ja seit dem 18. Jahrhundert, mindestens wenn nicht schon länger her, im italienischen Katholizismus immer wieder gibt, der Antitemporalismus, also gegen die weltliche Herrschaft der Kirche, für die Selbstständigkeit des Staates eingetreten sind, für die Laizität des Staates und für die modernen Freiheiten, die allerdings eben auch den Katholiken zugutekommen sein sollen. Es ist also hier die Aufnahme, die Fortführung und Eingliederung der katholisch-liberalen Tradition, die ja in Italien, besonders in der Toskana und so weiter, eine sehr große Rolle gespielt hat, als ein Beispiel, als eine Gestalt, eine bedeutende Gestalt dieser Richtung, den Grafen Tommaso Gallarati-Scotti, den Freund von Antonio Fogazzaro, von Iacini und anderen, von denen wir hier gesprochen haben. Er wies dann sehr interessant darauf hin, übrigens Gallarati-Scotti, der Herausgeber der Zeitschrift Rinnovamento, er wies darauf hin, dass 1907 auf dem Kongress von Rimini etwa ein Schulprogramm von der Lega vertreten wurde, die für einen weltlichen Schulunterricht auf der Grundschulbasis und dann allerdings einen Religionsunterricht auf der höheren Basis, also in den höheren Klassen, also ein tieferes Verständnis der Religion befürwortet hat. Das heißt, eine Ablehnung der Religion als sozusagen disziplinäres Mittel, wie es zur selben Zeit von Gentile ja vertreten worden ist, Gentile und dann später der Faschismus, Gentile ja dann als das Programm des Faschismus, Croce vertreten die Gedanken, ja, sozusagen die Religion zur Erziehung, zur Disziplinierung der Kinder in den Unterschulklassen verwendet werden soll, dass aber später, wenn der Geist selbstständiger wird, der Religionsunterricht wegfallen soll. Damit im Zusammenhang steht ja auch dann die Aufhebung der theologischen Fakultäten an den staatlichen Universitäten, die dann später auf dem Umweg über Geschichte des Christentums ja wieder hereingekommen sind, sozusagen, oder wieder aufgenommen wurden. während die Riga vertritt den genau entgegengesetzten Standpunkt, die Kinder sollen, also Religion soll nicht als sozusagen als Zugtrute für kleine Kinder verwendet werden, sondern soll im Gegenteil den Menschen, die Menschen sollen sich mit der Religion auseinandersetzen, wenn sie reifer sind. Herr Coppola ist dann wieder auf, ist dann auf zwei Fragen vor allem eingegangen, nämlich auf die Frage des Modernismus und damit, also auf diese Frage zunächst eingegangen, damit die Verschiebung von der sozialen Aktion auf die Frage der Orthodoxie, wobei diese Verschiebung natürlich vor allem von kirchlicher Seite, von disziplinärer Seite vorgenommen wurde, ist, um dieses ganze, auch diese ganze Bewegung in den Bereich, in den zu verurteilenden und dann auch verurteilten Bereich des Modernismus zu verschieben. Murri hat später selbst, in einer Zeit, da er schon mit der Kirche gebrochen hatte, 1920 in einer rückblickenden Schrift diesen Standpunkt sozusagen auch selbst angenommen, indem er seine Erfahrung in Zusammenhang gestellt hat und in Verbindung mit der Erfahrung der übrigen führenden Persönlichkeiten des Modernismus, wie Loisy und so weiter, und es als Beispiel für die Unreformierbarkeit der Kirche und für den Sieg des Integralismus angesehen hat. Herr Scopola hat dann etwa im Zusammenhang damit auf das Werk des hier ja auch anwesenden unseres Kollegen Maurizio Guasco hingewiesen über Romolo Muri und den Modernismus, El Modernismo, das 1968 in Rom erschienen ist. Er selbst hat die Ansicht vertreten, dass der Modernismo Politico eher bei Ernesto Buonaiuti vertreten ist, bei dem die Gefahr besteht, dass, und dass, dass hier die reale die religiöse Dimension des Katholizismus verloren geht. Die Lega selbst hat sich als ein als eine Entwicklungsphase im Reifeprozess oder im Reifungsprozess der Kirche angesehen und sie hat andererseits auch die Demokratie eben als einen absolut als einen Wert an sich anerkannt und es abgelehnt, die Demokratie nur als ein Instrument, nur als ein politisches Instrument zu bezeichnen. Hier allerdings schon im Jahr 1909 wird deutlich die Gefahr eines Bruches mit der Kirche, wogegen ja die zweite führende Gestalt, Cacciaguerra, auf dem Kongress von Imola von 1919 schon gewarnt haben. 1909, Entschuldigung, versprochen. Zusammenfassend hier auch hier steht schon Herr Scopola, dass im Gegensatz zu Gabriele De Rosa, der diesen Gegensatz von Murri und Sturzo sehr betont und sagt, von Sturzo kommt eben die Partito Popolare her und Murri sei sozusagen eine Sackgasse gewesen. Demgegenüber bekennt sich Herr Scopola zu dem Gedanken, dass die Lega eben doch eine Vorstufe, eine notwendige Vorstufe auch für die Bildung des Partito Popolare gewesen sei und dass sie damit, also sozusagen, dass hier eine Kontinuität gegeben sei und dass sie der adäquate Ausdruck der aktuellen Tendenzen in der, eben im Zeitalter Giolittis gewesen sei, so wie dann der Partito Popolare nach 1919. Er wies darauf hin, dass Murri immer sich bemüht hat oder immer die Auffassung vertreten hat, dass die Lega eine Brücke sei, sozusagen, die zur Linken hinüber zu führen habe, und das Ziel, dass sie eben das dann zu Bündnissen mit den Linksparteien kommen solle. Er hat hier dann noch das Werk von Francesco, in diesem Zusammenhang das Werk von Francesco Cecchini über Murri und Murismo genannt, dass diese politische Seite des Murismo hier besonders hervorhebt. Zum Schluss die Beschäftigung mit der endgültige Schlusskrise der Lega, die einerseits durch den Konflikt mit der kirchlichen Autorität, durch den Bruch Murris mit der Kirche, andererseits durch die Hinwendung dann endgültig 1914 in der Intervention zum Interventionismus zum Ausdruck gekommen ist, in dieser für die ganze italienische Geschichte so bedeutsamen Phase zwischen dem Kriegsausbruch 1914 und dem Kriegseintritt Italiens 1915, wo sich die Lega gegen den katholischen Attentismo, also gegen das zurückhaltende Abwarten, gewendet hat, die Verbindung, sich allerdings hier nun die Linke, im Allgemeinen die Linke der katholischen Bewegung verschiedene Haltungen hat. Ein Beispiel ist Miglioli mit seiner Azione von Cremona und Murri mit seiner ebenfalls gleichgenannten Azione di Cesena, die nun im Gegensatz zu Miglioli eine eindeutig interventistische Haltung hat, die etwa auch dann den Beifall des Interventisten Salvemini in seiner Zeitung Unità gefunden hat. Dieser Interventismo, sagt Herr Scopola, sei aber nicht ein Interventismo Nationalistico gewesen, sondern einer, der sich auf die Ideen Mazzinis, auf die Hoffnung auf eine Befreiung, auf den Bund freier Völker und so weiter gestürzt hat und die im österreichischen Vielvölkerreich eben einen Völkerkerker und ein Hindernis auf dem Weg zu dieser zu diesem Bündnis befreiter Nationen, dieser allgemeinen Brüderlichkeit der Nationen gesehen. Aus dieser Mentalität stammen die Scelta Interventista della Lega, die allerdings dann zum Passaggio al Fascismo, zum Übergang zum Faschismus von vielen oder einigen Komponenten dieser Lega dann auch geführt habe. Er sagt also, auch aus dieser letzten Phase, die ja schon über unsere Zeit herausführt, ergebe sich, dass es keine Antithese zwischen der Lega und dem Partito Popolare gebe, sondern dass die Lega eine Vorstufe, für eine wahrscheinlich notwendige Vorstufe für die Entstehung des Partito Popolare sei und damit auch, und damit schloss er dann seine Ausführungen, ein Element, das eigentlich einen deutlichen Widerspruch, ein Faktum gegen die von uns in den vergangenen Stunden ja diskutierte neomarxistische These von einer Kontinuität der gesamten Entwicklung der katholischen Bewegung im Sinne einer Eingliederung in das kapitalistische System zum Zwecke der Stabilisierung der sozialen Verhältnisse ist. Gerade die Lega sei ein Beweis dafür, für den Reichtum und die Vielfalt der katholischen Bewegung. Vielen Dank. Possiamo fare una piccola pausa e vorrei anche dire, adesso dirò questo, siccome il collega Repken ha parlato della proposta di Don Robert, o Roger, come chiamati, per una visita a questo museo dell'opera del Duomo, per le ore 18, cosa che è impossibile date le nostre abitudini di lavoro, come dire, stacanovistico. Allora, sì, no, vabbè, sono 5. Comunque, Don Roger ci ha dato l'alternativa anche di andare dopo cena, se lo desideriamo. Questo mentre chi lo desidera, quando lo desidera. Se abbiamo finito meglio, ma insomma, per riferire. Sono 5 minuti. Lo facciamo. A Maurizio Guasco. Ho alcune osservazioni che dureranno alcuni minuti, non 30 secondi, qualcosa di più, che sono un po' a cavallo sulle tre relazioni degli italiani, dei maestri italiani che abbiamo ascoltato, che sono Fonti, Fremiello e Scotto. Si è parlato spesso durante queste relazioni, o almeno appariva sul fondo, un problema che mi sembra estremamente importante, anche se né stasera né forse in altri momenti verrà risolto, cioè il problema religioso che sta a fondo del movimento cattolico. Il movimento Movimento Cattolico in quanto tale, o almeno dovrebbe essere tale, che fa riferimento a una dottrina religiosa, fa riferimento a delle motivazioni religiose, ma non è mai stato cercato di mettere, non si è mai cercato di mettere in luce, mi sembra, quali siano le autentiche motivazioni religiose, non dico in questa sede, anche altrove, che sono a monte del Movimento Cattolico. E questo mi sembrerebbe importante perché spesse volte, proprio l'altro giorno, si diceva giustamente, non basta dire sono cattolici, quindi possono fare qualunque cosa. Sì, hanno fatto l'alleanza con il capitalismo, con non so chi, ma loro erano cattolici, salvavano le intenzioni. Proprio in quegli anni, sul problema del salvare le intenzioni in quanto cattolici, all'interno di un convento francescano, credo a Roma, era nata una battuta estremamente significativa. Era la battuta con cui si diceva veniva fatta l'investitura dell'economo della casa. Si radunava il capitolo dei frati e il superiore generale posava la spada sull'economo che diceva questa frase latina che è molto comprensibile. Gli consegnava una cassaforte vuota, e gli diceva accipe cassam vacuam, remplire, un latino da poco, rempliream curabis, de anima tua nil cures, fratres proteorabimus. Dicevo, mi sembra estremamente significativo questo, e forse il professor Zaninelli nei suoi studi potrà chiarirci come mai molto spesso un certo tipo di economia cattolica prescinde da certi valori che dovrebbero essere religiosi. Questo può sembrare una battuta, ma dicevo, è semplicemente per richiamare al grosso problema che c'è, secondo me, nelle motivazioni religiose dietro alla storia del movimento cattolico. Cioè, potremmo dire quali sono i modelli di riferimento religioso a cui si fa capo. Ora, è stato detto molto spesso, e credo sia molto vero, che la storia dei cattolici del secondo Ottocento, soprattutto in Italia, è condizionata dalla questione romana e dalla questione papale. E proprio sulla base di questo condizionamento, alcuni hanno definito la religiosità cattolica, quindi le motivazioni religiose del mondo cattolico, una specie di culto del Papa. Lo si trova in molti libri che trattano il periodo. Anzi, c'è un volume di Gambasin dedicato all'analisi di quello che viene chiamato il moto verso Roma. Nasce il mito della papalità. L'obolo di San Pietro per il prigioniero del Vaticano, la paglia che si vende in giro e che sono pezzi di paglia sul quale il Papa dorme, eccetera, per far vedere la sua povertà. Mi sembra però che si rischi anche in questo senso di fare un po' troppo un mito di questo, di questa papalità, del moto verso Roma. Nonostante quanto si è potuto vedere dalle statistiche pubblicate, l'opera dei congressi, che è e dovrebbe essere l'unica opera autentica con l'approvazione del Papa, alla quale tutti i cattolici ferventi dovrebbero aderire, l'opera dei congressi, dicevo, nonostante le statistiche fasulle, ha molto pochi aderenti in molte zone d'Italia. Ora, questo per esempio mi sembra un elemento estremamente significativo, cioè quella che è considerata la prova del cattolicesimo degli italiani, l'essere iscritto in militare nell'opera dei congressi, questa prova è svalutata in molte regioni italiane. Allora è un problema, ci si chiede insomma, quali sono le manifestazioni della religiosità anche strutturata dei cattolici italiani dal momento che rifiutano di aderire a quella che per il Papa, di fare quel gesto che per la gerarchia è il più significativo come adesione alla Chiesa. D'altra parte però il fatto, la questione romana che ha condizionato la storia dei cattolici italiani, almeno per il secondo Ottocento, la questione romana che determina il rifiuto dell'ingresso, la proibizione per i cattolici italiani di fare politica, determina anche una forte conversione al sociale. E questo mi sembra un po' l'elemento, così, il filo rosso che lega un po' la storia dei cattolici italiani tra l'Ottocento e il Novecento, cioè questa forte conversione al sociale. Mi riferisco soprattutto all'Italia del Nord. Il movimento democratico che si inserisce in nel tentativo, nella conversione sociale per poi trasformarlo in politico, è chiaramente quindi in quanto questa conversione sociale avviene nel mondo intransigente, cioè nel mondo che rifiuta l'inserimento dello Stato e si converte quindi al sociale. all'interno di questo movimento intransigente nasce anche il movimento democratico. In questo senso mi sembra che sia un po' forzare le cose, e forse anche, mi riferisco ad alcune affermazioni nella relazione interessantissima del professor Fonzi, sia un po' forzare le cose, quella di vedere in alcuni storici d'oggi che tentano di togliere dalla lista dei cattolici intransigenti tutta una serie di personalità, quasi per purificare le loro origini. Cioè si dice si è tolto questo, si è tolto quell'altro, anche in fondo si finisce di negare che certi democratici cristiani siano di matrice intransigente, perché si ha l'impressione che avere una matrice intransigente sia una specie di peccato originale. Ora, io credo che sia un po' forzare l'interpretazione di questi testi, proprio perché direi che è abbastanza pacifico oggi che un buon numero di quelli appartenenti al movimento democratico cristiano provenga da matrice intransigente, e che questo non costituisca una specie di peccato, è semplicemente un dato di fatto. Posso tradurlo? Ora, questa, proprio perché i cattolici proibiti di fare vita politica sono soprattutto convertiti al sociale, c'è secondo me un certo disinteresse per quelli che sono gli accordi politici di vertice. In questo senso anche il significato del clerico moderatismo mi sembra che non debba essere esagerato. È vero che a livello di vertici ci sono questi accordi. È vero che nelle diocesi i cattolici votano per determinati candidati che sono proposti dai vertici e che questi che sono accordi clerico-moderati, ma è altrettanto vero che la maggioranza dei votanti di queste diocesi sono inserite nelle casse rurali, nelle casse sociali, fanno un'attività sociale molto intensa, ma sono abbastanza disinteressati della vita politica dei vertici. Almeno questa è una mia impressione. Per cui direi che tema della continuità più che dal clerico moderatismo mi sembra dato da questa conversione al sociale, in fondo una storia sociale dei vari movimenti locali, e in questo senso se in Germania e in Austria c'è un pullulare di organizzazioni, abbiamo sentito parlare di 270 mi sembra, non credo che in Italia sia da meno, almeno che l'Italia del Nord, c'è un autentico pullulare di organizzazioni sociali. Questo naturalmente porta i cattolici nel giro di poco tempo al confronto, ed è un altro dei temi a cui vorrei accennare, un confronto fondamentale con il Partito Socialista, con il socialismo e poi con il Partito Socialista. La nascita del Partito Socialista in Italia ha per i cattolici un effetto veramente traumatico. Se in un primo momento ci si era illusi che il socialismo potesse aprire la strada al futuro dominio del cattolicesimo in Italia, cioè si era detto il socialismo combattendo lo Stato liberale lo distruggerà e allora ci sarà spazio per noi che prenderemo il posto, per noi cattolici, che prenderemo il posto dei liberali, ci si accorge che i socialisti, qualora vincano sullo Stato liberale, non hanno intenzione di lasciare posto ai cattolici. Ed è in fondo, uno degli elementi fondamentali per la storia italiana del primo novecento. Il confronto, scontro, potremmo quasi dire l'amore e l'odio fra cattolici e socialisti. Dico amore e odio perché se da un lato nasce immediatamente un fortissimo odio teologico, diciamo, da parte della gerarchia verso i socialisti, basta sfogliare i sinodi, le pastorali, le lettere pastorali, i documenti della gerarchia del primo novecento di fine ottocento per trovare un'antologia di espressioni durissime contro il socialismo, anche perché la gerarchia si accorge che a livello di base avvengono delle autentiche alleanze. C'è, dicevo, questo amore odio. Nasce un'autentica coscienza di classe. E in questo rapporto fra socialisti e cattolici alla base c'è anche dell'amore, perché in fondo molto spesso gli stessi che militano nel Partito Socialista è gente che va a messa la domenica, che fa battezzare i bambini. Cioè questo è un dato di fatto fondamentale. E non è soltanto una battuta, vedo dal volto di un amico che può sembrare una battuta. Cioè, questo qui può sembrare una battuta, il fatto che facciano battezzare, eccetera, però il fatto che la gerarchia consideri il socialismo in quanto tale segno di irreligione, e quindi c'è un certo giudizio sul socialismo, e il dato di fatto concreto, cioè che le stesse persone che partecipano attivamente alla vita del socialismo poi abbiano un legame religioso, prova ai militanti di base che non è così vero che il socialismo in quanto tale sia irreligioso. Questo era l'elemento che volevo mettere in risalto. Posso tradurlo adesso? Non ancora. questo forse spiega, e questa è un'ipotesi che affaccio, il perché nella reazione antimodernista vengano coinvolti sia gli elementi teologici, gli elementi biblici, ma anche gli elementi sociali. Cioè c'è anche questo risvolto, questo timore che alleanze alla base tra cattolici e socialisti possono ingenerare una confusione anche a livello religioso. E questo ambito, questo problema specifico, ci introduce al terzo elemento a cui volevo portare una breve osservazione, cioè il problema dell'autonomia, il problema dell'autonomia politica dei cattolici. È su questo tema, mi sembra, che vengono a confronto e che si scontrano due modelli di ecclesiologia. Qui mi riferisco a quando dicevo all'inizio. Bisognerebbe studiare quali sono i modelli religiosi e i modelli ecclesiologici a cui fanno riferimento la gerarchia, i cattolici, certi movimenti e certi movimenti organizzati. Sarebbe interessante proprio perché si scopre questo scontro e questo confronto tra diversi modelli ecclesiologici. E dicevo lo scontro e così la crisi scoppia quando su un tema specifico si confrontano questi due modelli, cioè il problema dell'autorità e dell'ubbidienza all'interno della Chiesa. Si trovano di fronte due concezioni diametralmente opposte. Il Papa afferma che nella misura in cui interviene in un ambito qualsiasi, definisce anche qual è l'ambito in cui può intervenire. Non so se è chiaro. Siccome parla su un argomento specifico, vuol dire che ha il diritto di parlare e di imporre ai cattolici una scelta in quell'ambito specifico. Un gruppo di cattolici dice il Papa parla, ma in alcuni ambiti se interviene noi non abbiamo il dovere di obbedire. Ecco, è uno scontro, secondo me, a questo punto, proprio tra due modelli ecclesiologici. Uno scontro che ha la prima espressione chiara nel 1902, al momento delle istruzioni, quando il gruppo di Robert Moore pubblica un testo, è un testo scritto, è credo uno dei primi documenti scritti, in cui si dice chiaramente il Papa, le istruzioni, insomma, c'è un il Vaticano è intervenuto su un punto specifico, noi riteniamo di non poter seguire il Vaticano su questo punto specifico. Ecco, mi sembra che le istruzioni, la reazione del 1902 determinino proprio la crisi aperta e portino alla luce questo conflitto di fondo fra due modelli ecclesiologici. Questo spiega perché questo testo viene considerato un atto di ribellione aperta alla Chiesa e non solo a un modello di Chiesa, alla Chiesa in quanto tale. D'altra parte non dimentichiamo che c'è, dall'altra parte ci sono affermazioni molto precise di Pio X, penso alla sua espressione nella Pia in Animo, in cui condanna tra l'altro anche la Lega Democratica Nazionale, in cui parla di questa concezione ecclesiologica come di una nuova e riprovevole dottrina intorno all'obbedienza. È un'ecclesiologia, quella di Pio X, in cui non c'è spazio per il laicato, lo riconfermerà nella Pascendi, l'enciclica del 7 in cui si condanna il modernismo, quando accenna a quella rovinosissima dottrina che introduce nella Chiesa il laicato come elemento di progresso. E questo spiega, in un certo senso, le ragioni per cui, alla base della Lega Democratica Nazionale, molti cattolici vedono la ribellione religiosa. Hanno presentato come dottrina l'autonomia, ciò che il Papa considera assurdo all'interno del mondo cattolico. Ecco, e concludo sul serio. Io ritengo che se la questione romana domina e condiziona la fine dell'Ottocento, della storia dei cattolici, e se le scelte politiche, il problema delle scelte politiche concrete dei cattolici domina il primo Novecento, direi che uno degli elementi sicuramente dominanti quel periodo, tutto quel periodo, è il confronto e lo scontro con il socialismo. Questo confronto alla base e questo scontro ai vertici con il socialismo. Ora, e qui chiederei una precisazione anche al professor Scopolo, un'aggiunta a quanto ha già detto nella sua relazione, cioè come la Lega Democratica Nazionale si pone nei confronti del socialismo. E la domanda direi è duplice, cioè da un lato, come la Lega giudica il socialismo e come concretamente vede le eventuali alleanze con il Partito Socialista. E d'altra parte, e ho visto, tenendo presente che in molte zone, che in alcune zone, soprattutto in Emilia-Romagna, ci sono cattolici che militano nella Lega Democratica Nazionale e che hanno già fatto alla base delle esperienze di incontro con il Partito Socialista Italiano. E d'altra parte, come i socialisti, come il Partito Socialista giudica la Lega Democratica Nazionale. Sappiamo che nel 1905, quando Murray fa quel gesto considerato in quel momento un colpo di testa, anche se forse non lo era, di rivolgersi direttamente a Turati con una lettera aperta per chiedergli l'alleanza, sappiamo che Turati e i socialisti snobbano questo gesto di Murray. Altrettanto avviene 3 anni dopo, quando 2 cattolici, Caroni e Quadrotta, chiedono, restando cattolici cristiani, l'ingresso e l'iscrizione al Partito Comunista. Viene rifiutato questo ingresso. Chiedono l'ingresso, viene rifiutato. Quindi da parte dei socialisti c'è questo atteggiamento di rifiuto di queste richieste. Ora io chiedo, per quanto riguarda invece la Lega Democratica Nazionale, i socialisti continuano ad avere questo atteggiamento di rifiuto e quasi di snobbarla, oppure c'è un nuovo modo di considerare la Lega Democratica da parte dei socialisti? Grazie. Herr Guasco hat die Frage gestellt, was sind die religiösen Wurzeln? Das scheint ihm hinter allen 3 Referaten der italienischen Herren Bauzzi, Raniello und Scopola zu liegen. Was sind die religiösen Wurzeln? Was sind die religiösen Motivationen? Gibt es hier überhaupt in Bezug auf die Wirtschaftspolitik, auf die Sozialpolitik eine spezifisch katholische Politik? Es ist die Frage, über die wir uns ja schon unterhalten haben, ob es die immer wieder aufgeworfen wird, dass man sagt, sie sind, oder auch, dass man gesagt hat, die Leute sind Katholiken, also haben sie zumindest gute Intentionen und sich nach ihrer spezifischen Politik nicht gekümmert hat. Als ein Beispiel, geradezu ein Witzwort, ein Scherzwort, wie es bei der Investitur des Ökonomen, also des Ökonomen im Kloster heißt, nimm die leere Kasse, fülle sie an, denk nicht an deinen Seelenheil, die Brüder werden für dich beten. Nun hat er darauf hingewiesen, dass es tatsächlich die römische Frage, worüber wir auch schon oft gesprochen haben, die ganze, die beherrschende Frage ist, dass es zu einem Motto verso Roma, zu einer Bewegung zu Rom, der Culto del Papa, zu einer Volksbewegung für den Gefangenen im Vatikan kommt. Und dass das ein sehr starkes Moment ist. Er weist dann allerdings darauf hin, dass es sehr schwierig ist, festzustellen, wie weit es überhaupt eine katholische Bewegung gibt. Die Opera dei Congressi hat in einzelnen Gebieten sehr wenige Mitglieder gehabt. Wichtig erscheint ihm vor allem das, dass durch das Verbot der politischen Betätigung im italienischen Katholizismus sozusagen die Möglichkeit einer politischen Betätigung abgeschnitten ist und infolgedessen eine sehr starke Hinwendung zum Sozialen stattfindet im Bereich des Intransigentismus, der sich ja daran hält und der sich selbst vom politischen Weg richtet. Und bei dieser Gelegenheit hat er darauf hingewiesen, dass ja die demokratische Christiane eben aus dem Intransigentismus kommen, daher sei es völlig eigentlich gewaltsam, wie es in der neueren Historiografie oft geschieht, dass man einen sozusagen einen Linkskatholiken, würden wir heute sagen, damit man ihm sozusagen von der Erbsünde des Intransigentismus befreit, einfach zu leugnen, dass er aus dem Intransigentismus stammt. In Wirklichkeit stammen gerade diese Linkskatholiken oder diese christlichen Demokraten gerade aus dem Intransigentismus, die allerdings über das Verbot der politischen Betätigung auf dem Umweg über das Soziale darum herumzukommen suchen und wieder in die Politik kommen. Etwas anderes erscheint ihm besonders wichtig, dass es hier eine weitgehende Interesselosigkeit, jedenfalls bei dieser unteren Schicht, für irgendwelche politische Abmachungen in der Spitze gibt, weshalb auch dieser Clerico Moderatismo gar nicht die Bedeutung hat, die man ihm heute oft zuschenken will. Man hat wohl für die entsprechenden Kandidaten gewählt, aber das wirkliche soziale Leben oder das wirkliche auch außerkirchliche katholische Leben spielt sich eben in engen lokalen Pfarren und regionalen Rahmen ab. Und hier ist das Entscheidende, der Zusammenstoß oder die Bewegung mit dem Sozialismus, der einen traumatischen Effekt gehabt hat. Er sprach hier von einer Hassliebe zwischen Katholiken und Sozialisten, wobei der Hass auf Seite der Hierarchie ist, die aus ideologischen oder theologischen Gründen die Sozialisten mit ihrem Hass gegenüber Hass empfinden, während die Liebe eher auf der Basis ist, bei den für einen Pfarrer in der Pfarrei, wo man weiß, dass diese aktiven Sozialisten in ihrem Familienleben vorbildlich sind, ihre Kinder taufen lassen und so weiter, dass das keineswegs zu unterschätzen ist. Dieses Liebesverhältnis, wenn wir es nennen wollen, auf der Basis, das ist wieder nun seinerseits wieder ein Grund für die Hierarchie, das mit besonderer Härte gegen den Modernismus vorzugehen, sodass die antimodernistische Reaktion nicht nur theologische, sondern auch soziale und politische Gründe hat. Und hier ist für ihn eine zentrale Frage, die Frage der Autonomie, eine Autonomie, die nach der Praxis der katholischen Kirche in Italien sozusagen in der Kirche keinen Platz haben kann und haben soll. Es stehen sich auch hier wieder zwei religiöse oder ekklesiologische Prinzipien gegenüber, die etwa zum Ausdruck kommt in einem frühen Text der Gruppe Murium 1902, wo man den Standpunkt vertritt, wir folgen eben dem Papst nur in den durch das Dogma festgelegten Punkten, nicht in anderen Punkten. Es gibt Fragestellungnahmen zur modernen Gesellschaft, wo wir nicht verpflichtet sind, dem Papst zu folgen. Das ist in Italien, in der italienischen Welt, und hier glaube ich, kann man sagen, zum Unterschied von der deutschen Welt, wo man da eben weiter weg war und wo man eben sagen konnte, singulari quadam, wir bleiben bei unserem Allah, wird das als Rebellion aufgefasst, als offene Rebellion, gegen die sich Pius X. Ganz entschieden wendet, wo er überhaupt die Ansicht vertritt in der Enzyklika Pascendi, dass es für den Laien in der Kirche jedenfalls keinen Platz als bestimmendes, autonomes Element gibt, dass er nicht ein Element des Fortschritts in der Kirche sein kann. Er hat also gemeint, dass also während am Anfang unseres Zeitraums die Questione Romana, das Gefangene im Vatikan, das kirchliche Leben beherrscht, ist es dann in der zweiten Hälfte eben diese Begegnung mit dem Sozialismus, Begegnung oder Zusammenstoß in Contro. Und er stellt dann die Frage, wie beurteilt die Lega den Sozialismus und die Möglichkeit von Allianzen? Er weist darauf hin, dass manche Angehörige der Lega, besonders in der Emilia Romagna, Kontakte schon gehabt haben mit den Sozialisten, den sozialistischen Kampf gekannt haben. Und die andere Frage wieder, wie antworten die Sozialisten, wie beurteilen die Sozialisten ihrerseits die Lega? Er weist darauf hin, dass etwa Turati den Annäherungsversuch von Murri abgelehnt hat dass auch später zwei Angehörige dieser Lega eintreten wollten in die Sozialistische Partei und ihr Eintritt verboten wurde. Das ist die Frage, die er dann an Herrn Scopola richtet. Sono iscritti a parlare poi Bessia, ma io vorrei, dato che non so se sei stanco, no. Se no puoi parlare tu senz'altro adesso per alternare un po' tedeschi e italiani. Darf ich nur auf zwei Fragen hinweisen? Die eine scheint mir überhaupt bisher nicht behandelt worden zu sein bei der italienischen Realität, dass doch zur Realität des italienischen Katholizismus doch zweifellos gehört, dass in diesem ganzen Zeitraum es doch noch Katholiken gibt, die an den alten Regimen, etwa an den Bourbonen, an den Lorena, an dem Kirchenstaat und so weiter, noch irgendwie hängen, dass diese Traditionen doch noch vorhanden sind. Ich glaube, sie lassen sich sehr schwer quantifizieren, aber ich glaube, man muss die, wenn man das ganze Problem der Eingliederung der Katholiken in den Nationalstaat betrachtet, muss man sich doch immer wieder daran erinnern, dass auch Pius X. Eben noch langen Teil seines Lebens als gehorsamer, treuer Untertan des Kaiser Franz Josef gelebt hat und dass es hier also noch eine Resistenz gibt. Und das zweite, worauf ich hinweisen möchte, ist gerade im Zusammenhang mit dieser Amore Odio und diesem Trauma, dass es etwas ganz Ähnliches natürlich etwa im evangelischen Bereich gibt, und ich glaube, das ist allgemein für das Christentum zu sagen. Das hat ein Schüler von mir, der katholische, evangelische Kirchenhistoriker geworden ist, in seiner Dissertation behandelt, im speziellen Fall des Wuppertals. Er sagt da, dass die evangelische Kirche, und ich glaube, dasselbe stimmt für die katholische Kirche, für den Arbeiter schon einen Platz gehabt hat, der aber der falsche Platz war, nämlich den Platz des Armen. Sie hat ja seit Jahrhunderten eben immer für den Armen gesucht. In der Welt und in der Kirche ist ja ein Platz für den Armen. Und man hat eben zuerst im 19. Jahrhundert, und dann hier liegt einer der Gründe, glaube ich wirklich, warum die Kirche die Arbeiterschaft verloren hat, dass sie geglaubt hat, der Arbeiter passt in den Platz des Armen hinein, während der Arbeiterschaft eine im Aufstieg begriffene Klasse war. Wir haben hier sehr oft gehört von dem Fall der Sonntagsheiligung. Alle Konfessionen haben sich dafür eingesetzt, dass die Sonntagsarbeit verboten wird, damit der Arbeiter den Sonntag heiligen kann. Und sie waren dann sehr enttäuscht, wenn diese Sonntagsruhe verwendet wurde, um zu politischen Versammlungen und weltlichen Lustbarkeiten und so weiter verwendet wurde. Ich glaube, hier an diesem ganz konkreten Beispiel sieht man dieses Missverständnis, dass eben der Arbeiter, eine aufsteigende Klasse, nicht auf dem ihm von der Kirche vorgezeichneten Platz des Armen, für dessen man sich annehmen muss, nach kirchlicher Tradition eben hineinpasst. Posso dirlo in due parole? Mi pare che se si considera, questo è naturalmente chiaro per gli italiani, ma bisogna anche dirlo un po' ai tedeschi e ai svizzeri, che le difficoltà, le reticenze di inserirsi nello Stato nazionale in Italia sono ancora anche determinate in fatto che in tutte queste, in gran parte dell'Italia c'è un certo legame tradizionale dei parroci, delle tradizioni ecclesiastiche, tradizioni che muoiono lentamente ai passati regimi, sia i Borboni, sia i Lorena, sia, ho detto per esempio Pio X era per una gran parte della sua vita un suddito di Francesco Giuseppe, e anche tutto questo è da tenere in considerazione, secondo me. E poi c'è il problema che una delle ragioni per cui era così difficile alle chiese, io ho citato qui l'esempio di un lavoro di un mio allievo per la chiesa protestante, per Wuppertal, inserire il lavoratore nella chiesa, anche dal fatto che loro avevano già un posto per l'operaio, che però era il posto sbagliato, cioè era il posto del povero. Il povero nella chiesa ha una parte, ci sono associazioni, istituzioni che si occupano del povero, e che fu considerato che il lavoratore o anche il contadino, il proletariato agrario, fu considerato solo sotto l'aspetto di povero, e con ciò non come una classe che stava salendo. L'esempio classico, abbiamo parlato sia in Germania che in Italia, eccetera, che i cattolici o anche i protestanti si battono per la proibizione del lavoro domenicale, perché il povero abbia la possibilità di santificare la domenica, e poi sono molto delusi quando questi operai organizzano delle feste, dei comizi, eccetera, proprio quella domenica che dovrebbero, secondo loro, usare per santificare la domenica. Grazie. Dunque, adesso allora chiamiamo Prezzi alla ribalta. Io volevo collegarmi un po' alla relazione per quell'aspetto più propriamente politico, no? Che scopo ha sottolineato, che è stato messo in luce negli ultimi lavori sulla Lega Democratica. Ma in modo particolare vorrei collegarmi anche all'intervento di Guasto sui rapporti tra Lega Democratica e il mondo socialista. E il movimento operaio in senso lato, che lui ha chiamato l'amore e odio, lo scontro, confronto, che indubbiamente c'è stato. E secondo me questo scontro, confronto della Lega Democratica nei confronti del movimento operaio ha degli aspetti di continuità rispetto al movimento precedente, democratico cristiano, e anche degli aspetti invece che superano l'esperienza democratica. Gli elementi di continuità sono in un atteggiamento sostanzialmente antisocialista che anche la Lega Democratica ha, proprio sul piano della concorrenza, nella presenza nel mondo del lavoro. E durante la Lega Democratica sono convinti che debba esserci nel mondo del lavoro una presenza di cattolici. E questo era già chiaro nella prima Democrazia Cristiana di Murri, ma direi era anche chiaro in quegli ambienti cattolico-sociali, cristiano-sociali, di cui a lungo abbiamo parlato in questi giorni. No? E se noi andiamo a vedere, Guasco già accennava invece di trauma che c'è al momento della sorgere del Partito Socialista, però in alcuni di questi uomini si ha anche chiara l'idea che bisogna batterli su questo terreno, sul proprio terreno. E ci sono lunghe lettere di sfogo che si fanno da parte dei cristiano sociali nei confronti del gruppo intransigente Veneto, del gruppo della presidenza di Paganuzzi, proprio perché non permette questa azione. Vorrei ricordare, però, se mi è concesso un po' di secondi di più, una di una lettera del 1901 al cardinale Rampolla, segretario di Stato, di Medoardo Albani, il quale proponeva appunto un'azione nel campo economico concorde, pronta e energica, e diceva: ciò è tanto più necessario che da due anni, e forse più, si è perduto un tempo prezioso nel quale i socialisti, in gran parte d'Italia, hanno purtroppo gettate profonde radici con istituzioni che, rispondendo all'aspirazione, alle tendenze, ai bisogni del popolo e dei tempi, sono fatalmente destinate a vivere e prosperare. Tutto questo avessimo potuto e dovuto fare noi con spirito cattolico, ma noi stavamo disputando sulle parole, sui metodi, sui programmi, già questi ultimi, tante volte studiati e autorevolmente sanzionati dalle encicliche papali, per l'avere rinnovato, e intanto il socialismo si è fatto. Gli elementi invece di superamento che ci sono nell'ambito della Lega Democratica rispetto agli atteggiamenti di cristiano sociale e della prima Democrazia Cristiana consistono, secondo me, nel fatto che questa azione che viene portata avanti nell'ambito del movimento operaio non è in contrasto con l'azione più generale che il movimento proletario di quegli anni porta avanti. Direi che per la prima volta veramente si costruisce quell'unità di classe a cui già accennava Maurizio, anche perché da parte della Lega Democratica Nazionale viene compiuta una scelta che è una scelta di classe. Innanzitutto c'è la partecipazione da parte della Lega Democratica alla Confederazione del Lavoro, che Scopra ricordava la sua relazione, la partecipazione appunto alla Camera del Lavoro ed anche alla Confederazione del Lavoro. Al sindacato, quindi esistente in quel periodo. Naturalmente, questa presenza, però, qualifica, direi, è qualificante, pone delle battaglie, anche con alcuni successi, no? All'interno del sindacato. Innanzitutto, sul problema della aparticità del sindacato, e questo è un tema, direi, costante poi in tutta la storia del sindacalismo italiano. Proprio in quel congresso di Rimini, già ricordato del 1908, c'è proprio una relazione di Giuseppe Fuschini che sottolinea, no, questo aspetto, ma sottolinea anche che la participità del sindacato non vuol dire che il sindacato non debba fare la politica della classe che rappresenta e quindi degli interessi della classe. Un altro aspetto qualificante questa presenza nella Confederazione del Lavoro è la battaglia contro lo spirito anticlericale che molti dei dirigenti del sindacato, in particolare dei dirigenti socialisti, ancora avevano. è quel clima di anticlericalismo che si è in questi anni già ben ricordato da Scopola, questo anticlericalismo che di fatto diveniva un comodissimo diversivo, come lo qualificava Salvemini nei suoi articoli sull'unità, e quindi i cattolici della Lega Democratica combattono direi nella stessa forza, nella stessa consistenza con cui combattono però gli atteggiamenti clericali che vengono usati dalla maggior parte degli ambienti conservatori, i quali spaventati proprio di questo crescere del proletariato italiano, tendevano proprio a sfruttare la religione come difesa dei propri interessi. Ancora in quel congresso di Rimini, proprio Cavalati Spotti usa il termine, prendendo sembra un'espressione che era già stata di Ferdinando Martini, no? Che questa maggioranza conservatrice del paese opponeva una religione di classe ad una lotta di classe. Herr Prezzi hat angeknüpft an das, was Herr Guasco gesagt hat über das Verhältnis Amore-Odio, und er hat darauf hingewiesen, dass das bei der Lega Democratica, aber auch schon früher bei den christlichen Demokraten und christlich-sozialen Strömungen auch eben weitgehend durch das Konkurrenzverhältnis gegeben war. Er hat hier einen Brief zitiert an den Kardinal Rampolla aus dem Jahr 1901, wo seit wir diskutieren über Worte, über Programme, über einzelne Worte, inzwischen organisieren die Sozialisten die Arbeiterschaft. Wir haben damit wertvolle Zeit versäumt. Er hat dann darauf hingewiesen, dass die Lega Democratica Nazionale sich auf den Klassenstandpunkt stellt, dass sie einen Klassenstandpunkt bezieht, dass sie zum Beispiel in die Arbeiterkammern, in die Gewerkschaften eintritt, dass sie wohl hier für die Parteifreiheit der Gewerkschaft eintritt, was aber nicht die Klassenfreiheit der Gewerkschaft bedeutet. Also dass die Gewerkschaft wohl Ausdruck einer Klassenhaltung ist. Ein anderer Kampf, der gerade hier geführt wird, ist der Kampf, und zwar von der Lega Democratica, indem sie in die Gewerkschaften geht, ist der Kampf gegen den traditionellen Antiklerikalismus gewisser Gewerkschaftsführer, während sie auf der anderen Seite, natürlich darauf ist schon hingewiesen worden, gegen die Ausnutzung der Religion, gegen die Arbeiter zur Aufrechterhaltung der bestehenden Verhältnisse ist, wie das Cavalati Scotti auf einem Kongress betont hat. Man setzt eine Klassenreligion gegen den Klassenkampf ein. Sempre per rispettare il principio, grazie, allora chiediamo se volesse parlare adesso Lil, professor Lil. Ich habe also trotz der glänzenden Darlegung gewisse Zweifel an der Interpretation, die Herr Scopola uns von Mori gegeben hat. Und um diese Zweifel etwas besser zu erklären, möchte ich zunächst einmal den grundsätzlichen Unterschied aufweisen, der zwischen der Vorstellung von politischer Autonomie, etwa bei Windhorst und dem Zentrum, und bei Mori besteht. Wir haben das gestern schon mal zu erläutern versucht, aber es lässt sich gerade im Zusammenhang mit dem Intervent von Herrn Guasco nochmal sagen, dass also die deutsche Zentrumsführung den Staat, vor allen Dingen Windhorst selber, den modernen Staat als einen geradezu atheistischen Staat auffasste, in dem es sich nicht mehr lohnte, mit religiösen Mitteln zu kämpfen, nicht eine Erneuerung des gesamten Lebens aus religiöser Grundhaltung, sondern einen pluralistischen Staat, in dem man nur mit politischen Mitteln kämpfen sollte und in dem man notfalls auch die Trennung von Kirche und Staat hinnehmen muss. Die gesamte Diskussion um die Autonomie der Katholiken, von denen Sie uns eben wieder erzählt haben, ist in Deutschland ja 15 Jahre früher geführt worden. Leo XIII. Hat versucht, diese Autonomie einzuschränken, dem Zentrum an politischen Dingen seinen Willen aufzuzwingen, In den Akten aus dem Vatikan, die ich habe publizieren können, kann man das alles nachlesen. Und das bedeutendste Beispiel ist ja der berühmte Septennatsstreit, in dem Windhorst dann jene Haltung eingenommen hat, die kein geringerer als der Gasperi später als vorbildlich für einen katholischen Staatsmann hingestellt hat. In Italien konnte eben die Kurie weiter einwirken. In Deutschland musste sie die Unabhängigkeit tolerieren. In Italien wurde derselbe Kampf weitergeführt. Und ich kann gut verstehen, oder wir alle können wahrscheinlich gut verstehen, dass aus der Härte des Verhaltens Pius X. die Härte der Reaktion Moris hervorgegangen ist. Aber, und da ist mein eigentlicher Einwand gegen die Deutung von Herrn Scopola, wenn die Bewegung Moris sich von Anfang an betrachtet als Jung, als proletarisch, als revolutionär, wenn sie in der Demokratie einen geradezu religiösen Wert, wenn sie die Autonomie nur taktisch versteht, über die Autonomie alle Teile, alle Kräfte der Katholiken wieder gewinnen will, um dann doch eine letztlich katholisch orientierte Weltordnung zu schaffen, dann sehe ich darin einerseits in der Ideologie eine Absage an den modernen Staat und an die Unabhängigkeit, die Autonomie der modernen Gesellschaft und in den Methoden, ja, entschuldigen Sie, fast eine Vorwegnahme einer faschistischen Bewegung. Und ich sehe es als ganz konsequent an, dass man sich auf Mazzini und Gioberti beruft und dann 1914-15 zum Interventismus übergeht und 1922 da steht, wo man tatsächlich gestanden hat. Während der Don Sturzo meines Erachtens der Pragmatiker war, der die Partei im pluralistischen Staat gegründet und geführt hat. Und dass dann also die Don Sturzos Schüler und Nachfolger Gasperi sich ausgerechnet mit Windhorst beschäftigt hat, ihm einige Schriften gewidmet und ihn dann als vorbildlich hingestellt hat, scheint mir den Kreis zu schließen. Das eine ist die katholisch-demokratische Partei, die von Sturzo und De Gasperi. Das andere ist eine Bewegung, die eben doch meines Erachtens sich außerhalb der demokratischen, der Kontinuität zum demokratischen Staat stellt. Dunque, io ho certi dubbi sull'interpretazione che il professor Scopola ci ha dato di Muri e del Muis. Per spiegare un po' meglio questi dubbi vorrei ricordare innanzitutto la profonda differenza che passa tra il concetto di autonomia politica nella versione di Muri e nella versione del centro cattolico tedesco, soprattutto di Ludwig Windhorst e dei suoi alleati. Windhorst e i suoi consideravano lo Stato moderno quasi come uno Stato ateo, questa è una parola di Windhorst, cioè come uno Stato pluralista in cui non è più possibile realizzare una concezione cattolica di società, eccetera. Uno Stato, cioè, in cui non conveniva più combattere con mezzi religiosi e con intenzioni religiose, ma esclusivamente con mezzi e con scopi politici, accettando, anche se era necessario, la separazione fra Chiesa e Stato. Anzi, avrebbe preferito la separazione alla politica Leone XIII faceva con Bismarck. Si distingueva, come già abbiamo detto altre volte, ma in ciò torno a quello che disse il collega Guasco, si distingueva nettamente tra la sfera religiosa e la sfera politica. Sfera quest'ultima, nella quale le autorità ecclesiastiche non avrebbero avuto alcun diritto di imporre decisioni. Anche questa distinzione trovò l'opposizione, il rifiuto del Papa, e tutte quelle discussioni di cui lei ci ha parlato sono state fatte per la Germania 15 anni prima, e se il centro poteva insistere sulla sua indipendenza, lo ha fatto contro il Papa, e il punto più famoso è l'atteggiamento assunto da Windhorst nella famosa questione del settennato nel 1887 contro il Papa, atteggiamento che poi fu definito esemplare da Alcide De Gasperi, che ha studiato esattamente Windhorst e che ha dedicato certi scritti a Windhorst. In Italia, dove le possibilità della curia romana erano molto più larghe e molto molteplici, queste lotte, queste discussioni continuarono, e ammetto senz'altro che l'atteggiamento troppo duro della curia rende comprensibile la reazione anche molto dura di Muri e dei suoi, la reazione radicale. Ma se Scoppola ci ha spiegato il movimento di Muri come un movimento che concepiva se stesso come giovane, proletario, rivoluzionario, come movimento e non come partito, che cercava, che concepiva l'autonomia piuttosto come tattica per poi riconquistare tutte le forze cattoliche, poi che assegnava alla democrazia un valore quasi religioso, allora mi pare che già allora siamo in quel irrazionalismo che ricorda certi versi di Gioberti e di Mazzini, e mi pare che da allora c'è una linea diretta e conseguente che va al richiamo a Mazzini nelle discussioni per l'intervento, che poi conduce all'intervento e anche alla posizione filofascista che Muri ha assunto poi dopo la prima guerra mondiale. Allora io direi una nettissima differenza tra Muri, questo irrazionalismo e questa specie di integrismo dall'una parte, e veramente Don Sturzo e il suo partito, che hanno, secondo me, se sono ben informato, fatto una politica realistica pragmatica, e perciò mi pare logico che poi infine De Gasperi si richiama anche a Winters, perché là forse c'è più continuità che non da Muri a De Gasperi. Chiedo scusa che sono stato molto polemico, ma spero di avere polemico, per carità, una risposta che mi chiarisce questi dubbi. Allora, adesso non so, forse Bresti adesso. Bresti è già stato. No, niente, scusa, chiedo scusa, volevo dire per Reversa. Non c'è? Non c'è? Ecco. Io credo che... Prego, inserire. Venga forse più avanti, perché sì, da dietro si sente male. Qui c'è un po' di... Credo di inserirmi nel quadro che non solo continuamente ha richiamato il professor Scoppola in riferimento al problema che l'Italia democratica nazionale si trova verso il contemporaneo inizio del greco moderatismo politico, ma anche tengo purtroppo essere presente alla relazione del professor Danieli, e con uno sguardo molto limitato, forse un respiro molto ristretto, che riguarda l'ambito Venezia, ma che forse può essere di un certo interesse, perché da un lato dobbiamo, penso, tenere presente che Venezia e la regione nella quale Venezia si inserisce, il Veneto, hanno rappresentato un elemento determinante e condizionante per l'esperienza religiosa, politica e sociale dei cattolici italiani. Guasco ricordava prima l'opera dei congressi, e certamente l'opera dei congressi nelle altre regioni italiane ha un'aderenza molto limitata. Nel Veneto è un massiccio fenomeno organizzativo, capillare proprio, che penetra profondamente nella struttura della società. E dall'altro perché per molti elementi Venezia forse rappresenta un caso metodologico e complessivo, in questo senso che molti problemi che si verificano a livello locale assumono poi una tipologia di una spiegazione storica per molti versi di fenomeni che si estendono a carattere generale, cioè che abbracciano l'intero territorio, poi esperienze politiche complessive dell'Italia. Caso per esempio appunto dell'esperienza della politica amministrativa che fanno i cattolici a Venezia, cioè del governo della città di Venezia, del governo del comune, del municipio di Venezia. Ora, il problema non si pose per i cattolici veneziani e nemmeno per i cattolici italiani abbastanza molto tardi, si pose subito dopo l'unificazione della Regno d'Italia, si pose subito dopo l'occupazione di Roma, e sappiamo che una delle prime esperienze che i cattolici attuano a livello di governo in una città è proprio il caso di Roma. E penso che sia anche significativo ricordare come proprio a Roma, quando i cattolici chiedevano una spiegazione al Papa dei limiti entro i quali doveva contenersi la loro collaborazione con la classe dirigente locale romana, il Papa rispose tutta la collaborazione fuorché al governo del comune, fuorché un cattolico diventi sindaco. Cioè il limite era semplicemente la al vertice dell'amministrazione del comune di Roma, e il caso era valido anche come esempio per le altre situazioni locali. Ma perché i cattolici assumano in Italia il problema dell'amministrazione locale, cioè dei comuni, delle province, cioè di questi organi di politica amministrativa locale, bisogna aspettare parecchio, bisogna andare in là con gli anni. Per trovare una formulazione programmatica complessiva bisogna aspettare gli anni 90, quando cioè, per esempio, all'interno dell'opera dei congressi, il problema si pone concretamente nei confronti di stabilire cioè un programma di politica amministrativa molto preciso. E qui mi pare che sia molto significativo ricordare anche a questo proposito come questa formulazione di un programma amministrativo derivava da una spinta molto forte, cioè dalla spinta anche qui del pericolo e del timore socialista, perché con la formazione, la creazione del Partito Socialista in Italia nel 92 c'è questa spinta anche da parte, questo inserimento da parte dei socialisti nella politica anche delle amministrazioni locali, e quindi c'è questa reazione da parte dei cattolici volta ad arginare questo pericolo. E i casi più tipici delle vittorie elettorali alle elezioni dei cattolici sono i casi appunto che si verificano intorno al 1895. Nel suo libro Assurdo Cristi, la Stata di Milano, ha ricordato l'esperienza amministrativa dei cattolici milanesi derivante dalle elezioni del 95. A Venezia si verifica un'esperienza, io credo, altrettanto valida, forse maggiormente chiarificatrice in prospettiva, cioè di quanto avverrà. Cioè, mentre a Milano l'inserimento dei cattolici avviene attraverso un accordo che meglio il professor Fronti ricorda nel suo libro, attraverso un contratto con il gruppo politico dei moderati, cioè l'accordo avviene attraverso una contrattazione intorno a dei temi e intorno a delle persone, non si va più in là. A Venezia si verifica e l'accordo ha un risultato molto positivo, tant'è vero che la vittoria elettorale arriva a questo accordo clerico-moderato, tra cattolici e moderati. A Venezia avviene un caso leggermente diverso, c'è un vero e proprio accordo sostanziale tra i cattolici che ricordiamo a Venezia, sono i cattolici del gruppo dirigente dell'opera dei congressi, sono gli intransigenti. A Venezia, quando si realizza questo accordo con i moderati nel 95, poi c'è una grossa personalità di governo della diocesi, patriarca in caso passato, che diverrà pontefice, che invece. Ecco, allora, collocato in questo quadro, mi pare che l'esperienza che deriva ai cattolici dalle elezioni del 95 vada più in là del programma che i cattolici veneziani presentano, insieme con i moderati. Il programma è un tipico programma elettorale, quindi programma di governo con il quale i cattolici si presentano alle elezioni, è un tipico programma così di rivendicazione mista tra valori religiosi e soluzioni integralistiche, cioè è un programma che tiene presente alcuni casi, alcuni attriti che si erano verificati a Venezia. Faccio un esempio, forse perché può essere maggiormente ferrato. Per esempio, nella inaugurazione della prima esposizione internazionale del 1895, quella che darà origine alla Biennale di Venezia, c'era stata una grossa polemica per un quadro ritenuto immorale da parte degli ambienti, appunto, del cateriere Cano, e quindi una polemica portata avanti dai cattolici intorno a questo quadro, che la cui esposizione era stata permessa dalla giunta municipale, che era una giunta derivante da un accordo tra radicali e repubblicani. Ecco, poi questa stessa giunta aveva soppresso, ecco, forse alcuni di voi sanno che in occasione della festa, della cosiddetta festa della Madonna della Salute, il novembre, che ricorda un'antica pestilenza a Venezia, sul Canal Grande viene gettato un ponte sostenuto da barche galleggianti, tutt'oggi questo si verifica. E alla fine dell'Ottocento, in occasione di tre festività votive, si gettavano tre ponti. Uno di questi ponti, in occasione cioè della festività di Sant'Antonio, il 13 giugno, per passare tra il Canal Grande e arrivare alla chiesa dei Frari, era stato soppresso per motivi economici dalla giunta radicale repubblicana. Ebbene, questi sono tutti elementi che cattolici veneziani portano avanti in contrapposizione e che entrano nel problema. Ebbene, questi elementi tipicamente così religiosi, integralistici, poi di fatto, mi pare sia importante questo, trovano un superamento nella direzione del governo di Venezia, cioè questi problemi vengono completamente accantonati, cioè vengono risolti formalmente, ma il quadro politico entro il quale i cattolici si orientano risulta completamente diverso e affronta dei problemi tipici di Venezia molto grossi, ma che poi rappresentano non solo problemi esclusivi di Venezia, ma di tutto un modo di sviluppo, per esempio, del capitalismo in Italia. Anche qui forse alcuni esempi, spero di facile comprensione. C'è il grosso problema, per esempio, dello sviluppo del porto industriale di Venezia. Ebbene, questo problema viene in luce proprio durante la prima giunta, cosiddetta clerico-moderata, che si forma dopo l'elezione del 95. Il problema inizialmente riguarda semplicemente dei problemi doganali, cioè la scelta che viene fatta dalla giunta intorno all'instaurazione di un punto franco o di un deposito franco, cioè un problema di tipo doganale che però aveva al suo centro un modo di intendere lo sviluppo di investimenti di capitale a livello commerciale o a livello di trasformazione artigianale e industriale. Ebbene, sulla scia di questo punto di partenza si arriva, durante gli anni della guerra, quanto ancora di fatto il comune è retto da questa esperienza di accordo tra cattolici e moderati, a stabilire una convenzione tra il comune di Venezia, una società che si era formata intorno ad una grossa personalità del mondo industriale italiano, che tra poco ricorderò, la Società per lo Sviluppo del Porto Industriale di Venezia, che si era formato proprio nel 17, pochi mesi prima, e lo Stato. Una convenzione sul passaggio di proprietà di aree demaniali, di proprietà dello Stato, cioè aree demaniali, che si trovavano nel litorale veneziano, cioè nella zona che oggi è attualmente occupata dall'insediamento industriale di Marghera. Ebbene, tutto questo problema si centra intorno ad una grossa personalità, ricordavo prima, cioè Giuseppe Volpi. Giuseppe Volpi, un grosso personaggio del mondo industriale italiano, che sarà ministro delle finanze, che sarà presidente della Confederazione Generale degli Industriali durante il periodo del regime fascista. Ebbene, Volpi, che fa le sue prime esperienze finanziarie proprio a Venezia, entra direttamente a contatto con il governo del comune di Venezia, con l'obiettivo di poter effettivamente realizzare questa soluzione del porto di Venezia che non fosse rappresentato semplicemente da una soluzione di tipo commerciale, come era nella tradizione del porto di Venezia fin dai tempi della Repubblica, ma che invece si volgesse ad una soluzione di tipo commerciale industriale del porto di Venezia, cioè il porto doveva avere alle sue spalle un'area industriale che ne rappresentasse la valvola di salvataggio. Ecco, questo può essere, penso, un caso abbastanza significativo e grosso di comprensione di come il governo della città venne portato avanti sulla base di questa esperienza clerico-moderata nata dalle elezioni del 95. L'esperienza che poi continuò, si termina subito, continuò anche nel dopoguerra, perché pensiamo che lo sviluppo successivo del porto industriale, della zona industriale di Venezia, cioè della zona di Marghera, si realizzò prevalentemente nel dopoguerra, si realizzò prevalentemente quando i cattolici veneziani, ormai incentrati politicamente nel Partito Popolare, trovarono la loro una nuova possibilità di accordo, anche questo ha senso, di continuità del clerico-moderatismo con il Partito Nazionale Fascista a livello sempre di giunta governativa, perché a Venezia, con le elezioni amministrative del 1920, nasce la prima giunta clerico-fascista. Quindi c'è una continuità, direi, di esperienza. Herr Rebaschak hat darauf hingewiesen, dass in Veneto eben die Dinge besonders deutlich ausgeprägt sind. Das Veneto ist ein Gebiet mit sehr starker katholischer Mehrheit. Hier spielt die Opera dei Congressi eine sehr wesentliche Rolle. Hier lassen sich die Dinge sehr deutlich feststellen. Hier findet ähnlich wie in Mailand im Jahre 1895 ein Pakt, und zwar nun auch ein sachlicher Pakt, im Gegensatz zu dem, was Herr Fonzi über Mailand gesagt hat, wo es sich nur um eine taktische Allianz zwischen Katholiken und Moderaten handelt, ist es hier in Venedig auch ein sachlicher Pakt. Er hatte ein Accordo Sostanziale zwischen den katholischen Intransigenti und den Moderati. Einige sehr hübsche Beispiele wurden hier gebracht. Zum Beispiel das Auftreten, was, glaube ich, für das Veneto sehr bezeichnend ist, einer der wichtigsten Programmpunkte der Katholiken des Veneto, die Entfernung eines als unmoralisch empfundenen Bildes bei der ersten Biennale, oder die Frage, dass eine Schiffsbrücke, die eben in der Tradition lag, die inzwischen aus, von der radikalen und laikalen Stadtverwaltung, eine der drei Schiffsbrücken beim Fest des heiligen Antonius, die also nicht mehr errichtet worden war, dass die eben auch errichtet werden sollte. Und schließlich zeigt sich diese Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Kapitalismus sehr deutlich bei der Errichtung des, bei dem Anfang des jedes so problematischen und verhängnisvollen, oder wenn man andererseits will, aber auch wirtschaftlich so bedeutungsvollen Porto Industriale, das in Marghera und Mestre, das ja an die Persönlichkeit, eine Persönlichkeit, die gerade aus dieser Welt herauf vorkommt und dann im Faschismus eine große Rolle spielt, das ist Giuseppe Volpi, später Conte di Misurata, der ja dann auch Minister geworden ist, und gerade hier in Venedig geht dieser Clerico-Moderatismo eben in den Clerico-Faschismus. Also jetzt kommt Professor Röpke. Ich habe zwei Fragen und einen Hinweis. Erstens in Anknüpfung an das, was Herr Guasco gesagt hat. Ich habe gar keine Vorstellung, wie groß prozentual statistisch gesehen etwa die Zahl der Italiener in dieser Zeit war, die sonntags zur Kirche gingen und die einmal im Jahr ihre Osterkommunion empfingen. In Deutschland kann man eine ziemlich enge Beziehung zwischen, was wir praktizieren, Katholizismus und Zentrumwählerlängen herstellen. Die zweite Frage ist terminologischer Natur. Ich bin mir nicht ganz klar, ob man und was, es wird so oft der Begriff Klasse gebraucht, ob man das ins Deutsche ohne weiteres mit Klasse übersetzen könnte, was, wenn von Klassenpolitik oder Klassenreligion gesprochen wird, wenn von das im Italienischen gesagt wird, ob man das ins Deutsche ohne eine Veränderung des Sinnes als Klasse bezeichnen könnte oder ob man hier im Deutschen nicht von Schichten sprechen müsste. Und das dritte ist der Strato. Strato und Ceto. Strato und Ceto. Ja, gut, dann bin ich. Das dritte ist ein Hinweis, was heute teilweise kam und uns morgen noch einmal beschäftigen wird. Ich glaube, wenn von der Frage der Autonomie und der politischen und der Frage der Demokratie gesprochen wird, dass man für die damalige Zeit sehr sauber unterscheiden muss, ob Demokratie als Staatsform oder als Prinzip der Gesellschaft. Und wenn als Prinzip der Gesellschaft, als durchgehendes oder als hinzutretendes oder wie auch immer Prinzip der Gesellschaft das sich vorgestellt hat und darunter vorstellen muss. Solo due domande. Primo, il statistico percentuale degli italiani che 90 o 1900 o quasi tutti sono cattolici dal suo battesimo, quanti vengono la domenica alla messa, quanti prendono nel tempo del Pasquale la comunione. Seconda questione, il significativo. Röpken ha anche detto che in Germania fra i cosiddetti cattolici praticanti e quelli che votano per il centro c'è una grande fissa relazione, cioè quelli che è praticamente lo stesso, i praticanti sono anche elettori del centro. Seconda domanda, significativo della parola sul significato della parola classe. Il terzo, se democrazia sia il principio dello Stato o il principio della società. E se il principio della società è principio totale o in parte allora ci sarebbe ancora Coltri che aveva chiesto. No? Allora può parlare Scopola senz'altro rispondendo. Dunque io ringrazio tutti coloro che hanno preso la parola e hanno portato un contributo di sostanza al nostro discorso. E certamente arricchendo di molto il quadro volutamente breve per non annoiarvi e forse anche troppo teso in alcuni punti che io ho tracciato della esperienza della Lega Democratica Nazionale. Venendo rapidamente ai singoli interventi, sono grato a Guasco per il riferimento al rapporto con i socialisti, per il cenno soprattutto molto pertinente alle due ecclesiologie, schematizzando, perché in realtà poi ci sono tante sfumature. Mi pare che sia molto importante questo richiamo alle ecclesiologie sottostanti per capire tutto il discorso sulla autonomia. E per quanto concerne quella ecclesiologia dell'obbedienza alla quale Guasco ha fatto riferimento, che non riconosce, non vede limiti, anzi nega che vi possano essere limiti al dovere dell'obbedienza nei confronti dell'autorità ecclesiastica, mi pare utile sottolineare che concretamente, storicamente, questa mentalità si è espressa non solo come impegno dell'obbedienza quando il Papa parla ed impone, ma anche di fronte al desiderio del Papa. Abbiamo tutta una serie di richiami a questo impegno dei cattolici a obbedire anche al semplice desiderio, e questo si inserisce in quella logica alla quale ho fatto riferimento oggi e anche mi pare ieri nel corso della discussione, che porta poi a cercare di catturare in qualche modo, di influire sull'autorità religiosa perché dica quello che si vuole. In sostanza, La conseguenza finale di questo tipo di ecclesiologia e di questa mentalità è poi un intervento sull'autorità perché esprime il desiderio o esprima l'ordine al quale si vuole obbedire. Quindi abbiamo il trasferirsi del dibattito fra i cattolici, come dicevo, dal terreno suo proprio, quando si parla di politica o di questioni economiche, su un terreno improprio che è questa gara a catturare l'autorità e a presentare la propria linea come linea dell'autorità. È quello che i cattolici liberali dell'Ottocento dicevano in maniera molto efficace degli intransigenti, che obbediscono per comandare. Ecco, l'obbedienza al fine del comando. Mi sembra interessante non solo di accettare quello che Guasca ha detto, ma di aggiungere questa sottolineatura che vedo lo trova consenziente. Mi ha fatto una domanda precisa sull'atteggiamento del Partito Socialista nei confronti della Lega Democratica Nazionale. Io qui non ho adesso punti di riferimento per una risposta rispetto ai singoli momenti della vicenda della Lega, alle sue singole prese di posizione. Credo però si possa dire che l'atteggiamento del Partito Socialista si inquadra nella posizione complessiva del movimento operaio del Partito Socialista nei confronti dei cattolici e della Chiesa, che è stata ricostruita di recente in un volume uscito pochi mesi fa di Zunino, La questione cattolica nella sinistra italiana. Abbiamo cioè una posizione che non tiene nessun conto di quell'invito che già nel 98 in un suo scritto sui cattolici Salvemini aveva rivolto alle forze laiche: prendere sul serio il movimento cattolico. Praticamente il movimento socialista oscilla ancora fra un puro e semplice richiamo al cristianesimo, alla figura di Cristo come primo socialista, al rosso del sangue di Cristo che è il rosso del socialismo, quindi questi richiami propagandistici che sono quelli tipici della propaganda di Prampolini, ad esempio, in anni appena precedenti, e viceversa poi una piena accettazione, direi acritica, della cultura positivistica che porta ad escludere la possibilità di ogni intervento efficace da parte di cattolici per un'opera di giustizia sociale e di costruzione della democrazia, perché chi crede in Dio non può battersi per la giustizia e per la democrazia. Quindi abbiamo veramente questo atteggiamento di rifiuto pregiudiziale. Ad esempio vediamo che il mondo socialista non tiene in alcuna considerazione e non dimostra alcun interesse alla proposta separatista che ho ricordato, formulata nel 1907, ripresa da Gallarati Scotti, che si muoveva perfettamente in linea con la richiesta di Bissolati dal punto di vista del contenuto, e non la prende in considerazione proprio per la sua diversa motivazione, che, come dicevo, è una motivazione religiosa. In sostanza il movimento socialista in quegli anni ha in comune con la cultura idealistica rappresentata da Benedetto Croce e da Giovanni Gentile soprattutto, vero, questo rifiuto di ogni forma e di ogni espressione di riformismo religioso e di atteggiamenti nuovi nel mondo cattolico come atteggiamenti impropri, atteggiamenti contraddittori, ritardatari, come li definisce Croce, perché non sono stati capaci di andare al fondo del problema e di rifiutare il principio della fede in Dio, il principio della trascendenza, dal quale necessariamente, secondo queste posizioni, deve discendere il senso della soggezione, dell'autoritarismo, eccetera. Questo, mi scuso, la risposta potrebbe essere più precisa e particolareggiata, ma credo che come quadro generale possa già essere utile. Brezzi ha dato indicazioni interessanti per quanto concerne il rapporto alla base, vorrei dire, fra questi cattolici della Lega e il movimento sindacale, quindi ha utilmente integrato quello che da parte mia era stato appena un rapido accenno, e ha citato una lettera di Medolago Albani a Rampolla del 1901, mi pare, vero, in cui si sottolinea questo atteggiamento dei cattolici che si sono persi nelle discussioni di metodo, nelle discussioni di questioni interne, invece che essere uniti nell'opera di restaurazione sociale. E qui vediamo proprio riaffiorare quella tipica mentalità cattolico-sociale che ritiene in fondo indifferente il problema del metodo, che è il problema della scelta politica, che è il problema della scelta dei modi e delle forze in cui un'azione sociale si deve esprimere, perché non si può fare un'azione sociale a un livello puro, a un livello che prescinda dalla politica. Mi pare che Medolago Albani, in questo documento che Brezzi ha voluto ricordare, ci sia proprio questa indicazione, un esempio tipico di questa mentalità prepolitica, in fondo, del cattolicesimo sociale, che discende proprio dai limiti concettuali che la gravità comune, l'insegnamento di Leone XIII, aveva dato, in fondo, a tutto il movimento cattolico sociale. il cenno che ha fatto Brezzi alla scelta di classe della Lega mi trova consenziente se lo si intende nel senso di una presenza nel mondo operaio, ma non deve, credo, mettere in ombra o negare quello che è l'aspetto politico e la proposta politica della Lega nel suo insieme, che io ho sottolineato nell'ultima parte della mia relazione, che, come dicevo, è una proposta, se non vogliamo chiamarla interclassista, pluriclassista, nel senso che tende a uno schieramento politico che deve far leva su un impegno dei ceti medi, della borghesia, nelle sue espressioni più avanzate, per un'azione comune con le forze del mondo del lavoro, per un'azione di rinnovamento. La scelta di classe non si deve intendere in quel senso che oggi gli si dà, di carattere ideologico, e con questo mi pare di venire incontro anche alla domanda che faceva il professor Röpgen, un carattere ideologico che escluderebbe questo intento politico che viceversa il movimento ha, sia pure, direi in maniera così non compiutamente espressa, ha anticipato rispetto poi alla proposta di Sturzo del Partito Popolare. L'intervento più, direi, non polemico, più interessante, nel senso che ha attaccato in fondo la presentazione, l'interpretazione che ho dato della posizione di Muri, è quello del professor Lill. Mi pare che anzitutto sia necessario qualche chiarimento, vorrei dire, sul fatto, nel senso che io sono stato molto sommario e ci sono viceversa dei richiami che possono essere utili per una risposta più di contenuto. In definitiva, il concetto di Stato che questi democratici cristiani autonomi propongono nei loro documenti non è diverso da quello che emerge da quanto il professor Lill ha detto sulla posizione del centro tedesco. È il concetto, cioè, di uno Stato che non ha più la possibilità e il diritto di intervenire in problemi religiosi e che si deve muovere sul terreno di certi interessi comuni, deve essere l'espressione, la sintesi di tutta la dialettica sociale nel suo insieme. Se le interessa, posso leggere appena poche righe della definizione di Stato che è contenuta proprio in quel documento del 1907 sulla politica ecclesiastica. Lo Stato o la società civile, equilibrio di interessi in lotta, creazione della norma giuridica per opera della classe che più direttamente ed efficacemente preme sui poteri pubblici, tutela e governo dell'iniziativa esteriore in tutti i campi dell'attività umana, principio di forza e di coazione che potrà solo avvicinarsi alla giustizia, eccetera, eccetera. Quindi lo Stato è incompetente in materia di religione, esso deve rispettare la libertà di credenza e di organizzazione religiosa e lasciare libera la società dei credenti nello svolgimento della sua attività. In fondo è un concetto di Stato, vorrei dire storico, non più deontologico, non è una definizione dello Stato come emerge dai documenti di Leone XIII, quello che deve essere, ma quello che storicamente si esprime in una data società, che è un concetto politicamente valido, è un concetto che esprime, direi, una maturazione culturale rispetto a certe posizioni integralistiche del primo Muri. E coerente con questo concetto di Stato è il discorso sull'autonomia politica dei cattolici, che in fondo, in Muri, è tattica nella fase anteriore. Io ho cercato di distinguere, in Muri il richiamo all'autonomia è tattico e lui stesso lo riconosce nel periodo da fra il 98 e i primi anni del Novecento, ma nel periodo che ho esposto, che ho trattato della Lega Democratica Nazionale, c'è di caratteristico questo tentativo di Romolo Muri di legare il concetto di autonomia a una distinzione di piani, il piano religioso e il piano politico, nel quadro di una cultura che non è irrazionalistica, perché Muri non è stato mai un irrazionalista finché è rimasto nella Chiesa. Muri cede in qualche cosa a tendenze irrazionalistiche dopo il distacco dalla Chiesa, ma finché Muri è nella Chiesa è un tomista. E lo dichiara, e tutti i suoi scritti sono scritti di un tomista. Quando esce l'enciclica Pascendi, Muri interviene con un opuscolo, la filosofia nuova, come si titola, dell'enciclica contro l'enciclica Pascendi, che è una riaffermazione di tutta l'impostazione tomista, è una polemica contro quelle tendenze razionalistiche che si erano espresse soprattutto nel cattolicesimo francese. In altre parole, non si deve mettere sullo stesso piano la Lega Democratica Nazionale d'Italia e il Sillon in Francia. Perché nella cultura del Sillon e di Marc Sagnier, per la sua formazione al Collegio Stanislas di Parigi, l'influenza di Olle Laprine, eccetera, ci sono veramente delle venature, se non irrazionalistiche, quantomeno di quello spiritualismo francese che poi sbocca per certi aspetti nell'irrazionalismo. ma la Democrazia Cristiana Italiana di quegli anni, salvo punte marginali, rimane saldamente legata a premesse culturali che sono di tipo neotomistico, e il discorso di Mori rimane un discorso sull'autonomia legato appunto a questa distinzione. Certo, è vero che l'autonomia, come poi l'hanno vissuta Sturzo e De Gasperi, è un'altra cosa. In che cosa è diversa? Mori ha giustificato l'autonomia, ossia ha affrontato il discorso sull'autonomia a un livello teoretico, filosofico e teologico. Sturzo, proprio sulla base dell'esperienza muriana e delle botte che Mori aveva preso, ha sistematicamente evitato di giustificare teoricamente e ha fatto l'autonomia, e l'ha fatta sul terreno della prassi politica. E la stessa cosa ha fatto De Gasperi. Ma questo non significa che Sturzo e De Gasperi non siano incorsi anch'essi in contrasti, conflitti con l'autorità della Chiesa. Perché il Partito Popolare a un certo momento cade e rimane sconfitto, un momento simbolico della vicenda, quando all'indomani del delitto Matteotti interviene la Civiltà Cattolica a spiegare che i popolari non sono liberi di allearsi con i socialisti come De Gasperi aveva proposto, perché in fondo, e spiega con tutta una serie di argomentazioni teoriche, questo non si può fare. Quindi abbiamo di nuovo delle forme di intervento che fanno cadere un'autonomia. Un'autonomia di cui Mori aveva cercato una giustificazione teorica, e in parte l'aveva data, anticipando il discorso che poi sarà fatto da Maritain e da tutta una cultura cattolica, e che viceversa Sturzo verifica sul piano concreto. Qual è stata la conseguenza di questo trasferimento del discorso dell'autonomia dal terreno teorico della fase muriana al terreno pratico della prassi della fase di Sturzo? La conseguenza è stata che è rimasta nel mondo cattolico a lungo la mentalità, la convinzione che di problemi religiosi non si dovesse parlare. Ossia, i cattolici italiani che avevano vissuto nella memoria, nel per sentito dire o personalmente l'esperienza modernista e la polemica modernista, sono rimasti a lungo convinti che toccasse ai cattolici, ai laici, fare politica e non parlare di problemi religiosi, evitare in ogni modo di motivare, di giustificare sul piano dottrinale il loro impegno politico e la loro azione sociale. Io ho conosciuto vecchi popolari che di fronte all'interesse che rinasceva nel secondo dopoguerra per un discorso religioso per i cattolici, dicevano: ma queste cose sono questioni teologiche, noi non ce ne dobbiamo occupare. E ancora si risentiva in questo la scottatura patita negli anni del modernismo, che è quella stessa scottatura che aveva spinto Sturzo a quell'atteggiamento di prassi che io ho cercato di spiegare. Quindi c'è del vero in quello che dice il professor Lill della differenza, ma la differenza c'è perché il centro ha potuto mettersi sul terreno di una prassi politica autonoma. I Democratici Cristiani Italiani non hanno potuto mettersi su questo terreno, si sono messi sul terreno della prassi politica più tardi, con Sturzo, e non per questo hanno potuto evitare sempre e in tutto degli attriti e dei conflitti con la gerarchia. Attriti e conflitti che del resto ha avuto anche Alcide De Gasperi, perché lei sa che Alcide De Gasperi fu rifiutata un'udienza di Pio X, di Pio XII ad Alcide De Gasperi, perché De Gasperi si era opposto all'operazione Sturzo, viceversa patrocinata dallo stesso pontefice, per uno schieramento anticomunista a Roma che coinvolgesse anche fascisti, il partito neofascista, eccetera. Per cui è una storia che rimane, è una storia del tutto. E il discorso di Rebrecht, che si inquadra direi di più sul dibattito che si è sviluppato nei giorni scorsi sulla relazione Fonzi e sulla relazione Treniello, e in sostanza ripropone con questo accenno a una continuità effettiva e reale su questo terreno, mi sembra il discorso sia pienamente valido, di interventi amministrativi, ripropone il tema della continuità. Io non sto qui a ripetere tutto quello che abbiamo detto perché è impossibile, è troppo lungo, vero? Però mi sembra che pur sottolineando e riconoscendo elementi di continuità sul terreno della prassi amministrativa di queste esperienze che vanno addirittura dalla fine dell'Ottocento, mi pare vero, fino al periodo fascista ed oltre, si debba insistere, è quello che diceva Treniello ieri, sulla diversità del quadro politico e degli strumenti politici. Non è indifferente che questa azione, anche se si presenta in forme, direi, omogenee, in forme continue, si inserisca in un equilibrio in cui ci sono libertà civili, libertà democratiche, in cui i clerico moderati sono inseriti nel gioco giolittiano o viceversa i clerico fascisti sono inseriti nella politica di Mussolini. Il fatto di lasciare troppo in ombra il quadro politico per guardare soltanto a questi elementi istituzionali o strutturali a me sembra porti in definitiva a livellare esperienze che devono, se non altro, restare diverse ed essere storicamente identificate come diverse proprio per questo riferimento generale che contribuisce al loro significato di insieme. Ecco, non so se questo può essere un utile spunto di riflessione ancora su questo tema della continuità. Il professor Repgen ha fatto una domanda molto difficile per la quale io non ho elementi quantitativi, quanti sono i cattolici che hanno una pratica religiosa. Ma non so se ce li ha, può dire. Oggi o alla fine? No, alla fine dell'Ottocento. Allora, dillo tu e poi io faccio un'altra osservazione di carattere generale. Ci sono alcuni elementi numerici, ma molto pochi, nel volume di Acqua Viva, Le Crisi del Sacro, ma anche alcuni riferimenti storici alle statistiche di pratica religiosa. Però si possono dedurre alcuni elementi per costruire una statistica religiosa dall'analisi delle visite pastorali del 1800. Molto spesso c'è la domanda specifica. I praticanti, la messa della domenica, i praticanti considerando la messa della domenica, i pascalizzanti e i sacramenti fondamentali, cioè battesimo, matrimonio e poi la morte, non è un sacramento, ma i funerali, diciamo. Allora, analizzando queste risposte, si ha una differenza abbastanza netta tra la campagna e la città, come anche abbastanza logico. A fine 800 la frequenza è più alta in campagna che non in città, mentre oggi i termini, nonostante si creda al contrario, si sono rovesciati. Oggi la frequenza è più alta in città che non in campagna, nonostante non lo si creda, è accertato, insomma, direi. Comunque, e per quanto riguarda la pratica domenicale, è molto difficile fare delle statistiche, perché i parroci non rispondono numericamente, non ne sono in grado. Però, mentre nella domanda specifica come va la frequenza, sono molto ottimisti, globale, eccetera, guardando altre risposte si scopre che si lamentano continuamente della diminuzione. Credo che si possa dire che c'è una pratica così, veramente grosso modo, almeno per il nord Italia, che varia dal 25-30, pratica domenicale, al 65-70, ma è molto diverso da una zona all'altra, per quanto riguarda la pratica. Per i sacramenti, matrimonio, insomma, i sacramenti fondamentali e i pascalizzanti, le cifre che danno i parroci ci fanno concludere da quelle cifre praticamente il 100%, perché si trova segnalato, i parroci segnalano i casi singoli, dicono nella mia parrocchia ho uno che non fa Pasqua, ho uno che non si è sposato in chiesa, e raramente c'è due, uno, due, al massimo tre, che dal punto di vista statistico è un numero irrilevante, cioè anche facendo della somma è statisticamente irrilevante, per cui secondo i parroci, almeno al nord, la pratica dei sacramenti è praticamente globale tranne alcuni casi eccezionali. Io ringrazio molto Guasco e questa precisazione che ha fatto mi pare che introduca a quella osservazione che io volevo proporre alla riflessione del professor Repgen, ossia non si può stabilire un confronto fra in Germania e Italia in questo senso, mentre in Germania mi pare di capire vi è una sostanziale corrispondenza fra cattolicesimo religioso e cattolicesimo politico, in Italia sono due realtà profondamente distinte e profondamente diverse. Allora, oggi, come nell'Ottocento, negli anni del risorgimento, delle lacerazioni di coscienza, c'è una profonda distinzione. Ecco, questo mi pare che sia opportuno sottolinearlo come dato. Infine, ho detto, già accennato a proposito dell'intervento del professor Brezzi, a come viene intesa la scelta di classe da questi gruppi, da questi movimenti, lei chiedeva il concetto di democrazia. Quello che mi sembra importante è sottolineare che viene superato il concetto della democrazia leoniana, no? Quel concetto della democrazia leoniana per cui la democrazia non deve essere politica, non è necessariamente politica, ossia nell'insegnamento leoniano la democrazia politica è solo legittima, è una delle forme dello Stato che i cattolici possono accettare e dalle quali si possono servire, mentre la democrazia che conta, quella che ha valore religioso, è solo la democrazia in senso sociale come azione per la giustizia sociale. Come principio, questa è la distinzione leoniana. In questi movimenti noi abbiamo l'affermazione di un rilievo della democrazia anche politica, quindi anche come partecipazione popolare, dal punto di vista etico-religioso. Non è indifferente per il cristiano che si partecipi, che si sia liberi, che si sia inseriti attivamente nella dialettica della società. Questo ha un significato rispetto al valore della dignità umana, rispetto a un'esigenza di fraternità e quindi si dà un significato positivo, religioso, alla democrazia anche politica. Poi ci sono posizioni estreme, quelle cui accennavo, di Muri nel periodo del 10-11 di Bonaiuti, che arrivano addirittura a identificare democrazia e religione, a ridurre alla democrazia tutta l'esperienza religiosa. Ma bisogna distinguere sempre i diversi momenti e non conglobare, direi, i giudizi d'insieme, quello che è un processo che ha conosciuto diverse fasi e diverse tappe. Brevissimo assunto, ganz kurz nur, in der Antwort an, an Herrn Guasco hat Herr Scopola hervorgehoben, dass bei dieser, dem Gehorsam gegenüber der kirchlichen Autorität es auch sehr oft vorkommt, dass man die kirchliche Autorität zu beeinflussen sucht, dass sie das sagen soll, was man selbst gern hört oder was man selbst dann vertritt. Es ist aus der besonderen Situation, gerade in Italien, aber auch sonst, dass man also sozusagen nach Rom geht, um dann aus Rom mit der autoritären Stimme des Papstes seine Meinung zu hören. Was das Verhältnis zu Herrn Prezi betrifft,